Cosa fanno insieme Giuseppe Cruciani e David Parenzo? Un programma radiofonico canottaggio. Programma telefonico. Programma telefonico. Radiofonico. Cosa ha detto radiofonico? Radiofonico, io ho detto. Lei cosa ha detto? Ah sì, programma radiofonico. La zanzara. Tutto il resto è troia. No, non ho detto gioia. Caro Parenzo, felice, che ridi? Cosa ridacchi? immagino già che lei dedicherà la puntata. No, che puntata? Ma che puntata? Ma quale puntata? Non c'entra niente. Qui non abbiamo temi che ci accompagnano per tutta la puntata. Facciamo quello che ci pare. C'è un grande minestrone. Iniziamo con volare. Perché iniziamo con volare? Perché, beh, cari amici, se al posto della Boldrini ci fosse stata, che ne so, la Pivetti oppure Mastella. Sì, lasciamo perdere Mastella, che dopo vedremo. Uno Schifani a portare la moglie, più persone al seguito. O la Pivetti, il compagno, più persone al seguito, in un viaggio in Sudafrica, dove, diciamo, la presenza della Presidente della Camera non era proprio richiesta a gran voce, perché c'erano i capi di Stato e di Governo. Poi lei si è accodata, perché sappiamo che la Boldrini, l'Africa, l'ex Terzo Mondo, eccetera, eccetera. Allora, li avrebbero impiccati, se non fosse stata la Boldrini, vero, all'arrivo a Ciampino ci sarebbe stata la gente con i forconi. Con i forconi all'arrivo a Ciampino, al ritorno. E invece, tranne qualche giornalaccio di destra, è ironico, Cantare. Oh, la stessa Boldrini, la quale parla di polemiche sessiste. Sì, bene, sessiste. Non c'entra un cazzo? Niente. Diciamolo subito, ma niente. Proprio niente. Niente, non me ne frega niente se c'è il compagno, no, oppure è la compagna, non, no, non c'entra nulla. Nulla. È vero che i ruoli sono diversi, perché una cosa è la first lady o i first lady maschi dei capi di governo o di Stato, una cosa è il compagno del Presidente della Camera. Sono ruoli un po' diversi, no? No? Eh beh, dai. Ma il marito della Merkel è andato, ad esempio? Questo è interessante, non credo. Non mi risulta, appunto. Da noi e portiamo pure il fidanzato, vieni pure tu, perché poi non me ne frega niente i costi aggiuntivi, e c'è sempre la questione dell'immagine. Per dare l'addio al compagno Mandela. Oh. Il compagno Mandela sicuramente lì da lassù diceva: ma c'è anche il marito del fidanzato della signora Boldrini, però speriamo, il signor Mandela lì nel cielo del Sudafrica, nel cielo azzurro. Oh, Boldrini, la stessa Boldrini che diceva: chiamatemi la presidente, ti ricordi? Beh, come dimenticare? Ci sono più professoresse che professori. Ma se io chiamassi il maestro Giancarlo Rossi, la maestra, signora maestra, venga, si accomodi, signora maestra. Se io chiamassi il direttore Calabresi direttrice, alla terza volta mi direbbe: ma scusi, lei ha un problema, lei ha un serio problema. Io ogni giorno mi sento chiamare signor Presidente, ogni singolo giorno, e basta. Servi di Roma fuori. I grandi problemi della Boldrini. Io quando sento questa musica, poi io non riesco a capire una cosa: perché il signor Mastella lapidato, crocifisso perché portò il figlio a Monza al Gran Premio, nello stesso volo di Stato? No, è uguale. Anzi, devo dirti la verità. Io preferisco Mastella a Monza al Gran Premio. Tutta la vita Mastella a Monza al Gran Premio è una sua logica. Però non era un premio, non era una questione istituzionale. Adesso, al Gran Premio, ne parleremo. Non permettere al tiranno ma di accecare. Ma più logico piuttosto che la Boldrini in Sudafrica. È così, ma quello non c'è dubbio. Scusa, a me è più logico. Quello va col figlio a vedere il Gran Premio. Ma perché poi vede il Gran Premio? Come aveva un appuntamento giustizia istituzionale a Brescia. Si è fatto dare un passaggio da Rutelli. Si fece dare un passaggio da Rutelli per vedere il Gran Premio. Anche lì, costi zero. Eppure, no, Mastella, un porco, ha invitato il figlio sull'aereo di Stato. Una vergogna, richiesta di dimissioni. Che doppio pesismo, che schifo, guarda, che schifo, che schifo. Oh, beh, io ho sentito una cosa, soprattutto ieri al congresso che ha incoronato Salvini, il ritorno è il ritorno di Borghezio ai vecchi tempi, come vecchi tempi. Perché però i giornali non ne hanno dato molto conto. No, però, molto. Però senti, è tornato a battere i pugni, a battere i pugni sugli scranni, come no. Senti. Anche noi torneremo anche elettoralmente fortissimi. Dobbiamo andare avanti con la nostra pulizia, la nostra coscienza pulita, fottendocene di chi ci metta merda addosso. Coraggiosi, perché il popolo è coi coraggiosi e noi siamo coraggiosi. Viva la Lega! Grazie la Mario, libera. Grazie. Che buon Leber! Che buon Leber! Che buon Leber! Perché Piemonte libero? Vabbè, Piemonte ma libero. Che bisogno c'è di dire Piemonte libero? Ma perché? Beh, hai visto, hai sentito quel rumore di sottofondo? Sì, batteva, senti contro l'Europa, Marione, Beh, resta al top. Io voglio ancora fare la compilation. Non permettere altri di pingola che oggi titola la stampa quelli che sono contro l'Europa. Sto cazzo! Noi siamo quelli dell'Europa dei popoli! E qui c'è l'Europa dei popoli che va da Brest a Mosca. Sempre moderato, sempre moderati, sempre moderati. Io veramente trovo incredibile questa cosa. Questa giornalista di Rai News 24, adesso saltiamo veramente da una cosa all'altra senza problemi, non ce ne frega niente. Poveretta, la signora Tangherlini, la signora Laura Tangherlini. L'hanno lapidata. No, semplicemente sospesa, è diverso. Ma sì, è una forma di lapidazione. Ma ci sarebbero da sospendere tanti leccaculo in giro. Ma era in fuori onda, mi sono rotto i coglioni, ma mi sembra che poveretta si era stufata. Scusa, è diventato un mito anche per me, Laura Tangherlini. Ma non è un po' eccessivo questo provvedimento? Beh, direi di sì. Torniamo subito dopo in diretta su Rai News 24 con gli aggiornamenti delle notizie. Restate con noi. Restateci voi perché io me ne vado, può essere. Mi sono rotta il cazzo. Siamo al top. Ma cambia proprio il tono della voce, sì, tra la messa. Vabbè. E ora vi daremo conto questa di quanto è avvenuto in Sudafrica con le gau, mi sono attaccato. Bene, siamo qui 800240024. Io devo dire la verità, caro Parenzo, trovo incredibile. Non condivido nulla degli amici, insomma, delle persone di Casa Pound, sono delle persone di Casa Pound, sì, che è questo movimento radicato soprattutto nel Lazio, ma non solo di Lazio, che potremmo definire molto di destra. Condivido nulla. Detto questo, se uno si arrampica sopra un palazzo, prende una bandiera dell'Europa, è giusto anche sanzionarlo, perché non è che uno si può fare quello che vuole, arrampicarsi sopra i palazzi, prendere una bandiera. Un assalto è stato. Ma quello. Che assalto? Un assalto. Tre mesi gli hanno dato, tre mesi e 100 euro di multa, come sì? Certo. Sei pazzo, come sì? Tre mesi e 100 euro di multa. Sospeso con la condizionale, non ci andrà mai. Guarda, punire ha fatto la bravata. Sì, ho capito, ma ha allora ogni manifestazione. Allora ogni manifestazione dovremmo mettere in galera o condannare decine e decine di persone. Se uno dà fuoco a un cassonetto, certo che deve essere preso e portato subito. Vabbè, comunque, abbiamo il protagonista di questa vicenda, Simone Di Stefano, vicepresidente di Casa Pound. Buonasera. Camerata. Salve, buonasera a tutti, buonasera a Parenzo. Come andiamo? Come andiamo, signor Di Stefano? Andiamo molto bene. Bene, per voi una botta di culo, devo dire la verità, perché comunque così tanta pubblicità, vale forse la pubblicità, vale forse l'esposizione, eccetera, vale tre mesi di condanna o no? Ma in realtà non è così, noi volevamo fare un gesto, in questo momento ci sembrava doveroso che si dimostrasse ci sono ancora italiani con le palle in grado di non piegare la testa all'Europa. L'abbiamo fatto sapendo benissimo a cosa andavamo incontro. Ma chi se ne frega della condanna? No, ma sì, ma certo che mi frego dalla condanna, questo è ovvio, sono tre mesi che voglio dire, no? Nell'appello cadranno regolarmente, però non è quello, è il gesto, cioè c'era bisogno di far vedere che ci sono ancora italiani che non si arrendono, che è lo slogan che stiamo ripetendo da mesi. Però scusi un attimo, però se uno l'avrà messo in conto di Stefano di fare un gesto marinettiano, futurista, chiamato, e però paga il prezzo tre mesi. Cioè tu sei contento che sia stato condannato, Parenzo? Sono contento. Sei contento? Vengono, di la verità, sei contento? Parenzo è sempre contento quando qualcuno viene condannato. Quando venite condannati voi, diciamo quando la verità. Uno fa zio, a me sono anche simpatici nel marinettismo che loro hanno. Ma parla come mangia, il marinettismo, qui non è che stiamo... Nelle loro azioni, in questi loro gesti estremi, sono anche divertenti, però pagano il prezzo. Scusi, ma lei la brucerebbe la bandiera? Uno assale la sede dell'Unione Europea con una scala. Assale, vuole rubare, assale, vuole togliere la bandiera. Ma quelli che spacciano le vetrine che devi fare allora? Devi sparare a vista se uno ma viene che sparare? Per prenderli e portarli in questura, ma stiamo scherzando? Scusi un attimo, ma allora lei se li è meritati questi 3 mesi o no, Di Stefano? Pensa di esserseli meritati? Non me li sono meritati perché sono stato condannato per furto di una cosa che è stata peraltro restituita e che ha un valore monetario pressoché nullo, quindi non c'è. Vabbè, però la bandiera è dell'ufficio dell'Unione Europea a Roma, di qualcuno sarà sta bandiera. Se volete, insomma, faccio una colletta, i 50 centesimi li tiriamo fuori, cioè di fatto poi era uno straccio appeso, pieno di polvere, abbandonato da chiunque. Ma lei la brucerebbe la bandiera dell'Unione Europea? No, io non brucerei mai nessuna bandiera, neanche quella europea, che non considero una bandiera, ma lo considero uno straccio. Oggi il PM uno straccio, dire, no, questa è una bandiera che ha una... Una bandiera che ha? Così. No, il PM diceva questa è una bandiera che non ha solo un valore monetario ma anche una valenza, diciamo così, simbolica. Non è vero, perché le bandiere degli stati come quella italiana, dove la gente è morta per portare quei colori, hanno una valenza. Quella dell'Unione Europea non vale un cazzo, una costruzione tecnocratica per schiacciare i popoli europei, non ha nessuna valenza, non vale perché nulla, zero quella bandiera, non vale zero, non è bagnata da nessun sangue se non dei poveri italiani e altri europei che si sono suicidati per colpa di quella bandiera, o dei greci che si inoculano il virus dell'AIDS per sopravvivere, per prendersi i fondi dalla comunità europea. Non ho capito che è sta il cosa... sangue dell'Europa. Non ho capito sta cosa dell'AIDS, che cos'è, scusi? In Grecia ci sono casi di greci che inoculano il virus dell'AIDS per prendersi i fondi che la comunità europea mette a disposizione dei malati dell'AIDS, perché la gente in Grecia sta morendo di fame perché si sono venduti tutto, gli hanno fatto vendere tutto. Qualche colpa dei governi greci, amico mio, caro camerato Di Stefano. Politici, non certo del popolo che è Unione greco. Europea. Senta, ma secondo lei hanno governato la Grecia? È come qui, caro Parenzo, cioè non è che se tu hai un palazzo di proprietà e l'amministratore ti ha mandato fallito, si vendi il palazzo, dai un calcio in culo all'amministratore e il palazzo te lo tieni forte e chiaro. Questa però scusi Di Stefano, secondo lei il fascismo era meglio dell'Unione Europea? Il fascismo era meglio dell'Unione Europea? Sì, come così? Non saprei dire, perché stiamo parlando di cose di 80 anni fa, sinceramente un raffronto non lo so fare, però so che durante il fascismo sostanzialmente il lavoro ce l'avevano tutti, qui invece la gente muore di fame. Per cui da questo punto di vista si stava meglio? Sicuramente, guarda, se me lo vuoi far dire tutti il 100 volte, no, che lo voglio far dire, lo dice lei direttamente, mica l'ho detto l'ho io. L'ho sempre detto e l'abbiamo sempre, insomma, c'è rispetto adesso. Gli italiani lo pensano, guarda, anche la gente di sinistra sa benissimo che qui durante il fascismo le cose sono andate di gran lunga meglio di come vanno oggi. Beh, Di Stefano, scusa, adesso non si può dire questa cosa qua, è una cosa... Non si può dire, scusami, tu fai parte di uno degli ordini, l'ordine dei giornalisti, che ancora ha una serie di vantaggi economici non indifferenti proprio perché il fascismo ha diviso il lavoro. Firmati il referendum per la infatti posizione dell'ordine, vorrei abolirlo, io sono liberale, e vero. Comunque non c'è nessun vantaggio. Traffico, torno subito, Di Stefano. Danzano come zanzare. Nel giorno in cui Berlusconi dice che i forconi sono il popolo di Forza Italia, sono gli elettori di Forza Italia, insomma, sono... No! Sono gli elettori. Bello. Bisogna vedere quali forconi, a quali forconi si riferisce. Un signore che è qui presente con noi, vicepresidente di Casa Pound, viene condannato a 3 mesi e 100 euro in primo grado, processo per direttissima, perché si arrampica sopra un palazzo e tira via la bandiera dell'Unione Europea. Ora uno può pensare tutto il male possibile, signor Di Stefano, Simone Di Stefano. No, non è che penso male. Sì, tu pensi, commento quel che dice Di Stefano, no, prima ha detto pensi che durante... tutto male possibile, però, molto male. Però, ha detto che durante il fascismo il lavoro ce l'avevano tutti. Vabbè, sì, la pensa così. C'erano dei lavori bellissimi, spie, torturatori, manganellatori, delatori. Questi erano i lavori che c'erano durante il fascismo. Lavori garantiti, amico mio. Torturatori, manganellatori, sprangatori. Questi erano i lavori, rastrellatori di uomini e donne. Pubblico per i manganellatori. Questo era il lavoro per tutti. Questi c'erano, questi lavori c'erano. Lavori per tutti, questi erano i lavori per tutti. Quando c'era il fascismo si sono inventate le leggi per cui le donne incinte devono rimanere a casa stipendiate, cose che beh, diciamo che non era bellissimo. Probabilmente togliere, però non parliamo di 70 anni fa perché è inutile partire con l'orologio, parliamo di oggi. Perché non ho capito, c'erano leggi ottime questa delle donne incinte, cioè il fascismo ha fatto delle leggi stupende secondo lei? Così. Ha fatto delle leggi stupende che ancora sono in vigore oggi, ha creato gran parte dell'ossatura dell'economia di questa nazione, ha creato gran parte dello stato sociale di questa nazione di cui anche il signor Parenzo usufruisce, strepita, diciamo, se ne giova e quindi va bene, ma stiamo parlando di 70 anni fa, non scusi un attimo, no, per carità, ma io perché dicevo, voglio dire, se la critica è che era una dittatura, allora mi dovete dire per quale cavolo di motivo noi continuiamo a commerciare con dittature che dall'altra parte del mondo uscirono la gente in mezzo alla strada, sono cose diverse, però poi ci vendono i pantaloni a 2 euro, sono cose diverse. Questo può aver ragione, non mi dica che l'Italia con Mussolini alla guida oggi sarebbe un'Italia migliore, perché non lo può dire questa cosa qua. Mussolini non c'è, quindi è inutile. Beh, Mussolini, un simile Mussolini, che ne so. Uno dei padri della patria che ha fondato questa nazione. Sì. Esatto, ha fondato questa nazione e l'ha tirata fuori da quello che era e l'ha fatta diventare una nazione industriale, cosa che oggi non viene più tollerata De Nicola in Europa, è un padre della patria, Einaudi è un padre della patria. Industriale. Einaudi è un padre della patria. Testa pure voi lì dalla radio di Confindustria, che non capite. Napolitano è un padre della patria. Napolitano. Sì, è proprio il nonno della patria. Cioè, scusi, secondo lei tra Mussolini e Napolitano chi è più degno come padre della patria? Ma sicuramente Mussolini, ma ci mancherebbe, per soltanto per le leggi ancora in vigore, per quanto ha fatto. Non credo che Napolitano abbia fondato città o abbia dato a questa nazione uno stato sociale. Scusi un attimo, ma la frase che ha detto uno dei vostri, non so se interlocutori in questa vicenda dei forconi, no? Uno con cui magari dimostrate per strada, quella sui banchieri ebrei, lei la condivide? Lui l'ha smentita. No, condivido assolutamente. C'è da dire che in questa noi non siamo fra gli organizzatori del 9 dicembre. Gli organizzatori di questo 9 dicembre hanno avuto una serie di portavoce tirati fuori dal mazzo di internet. Noi abbiamo semplicemente detto che saremmo stati in piazza col tricolore e purtroppo c'è stata una pletora di persone che ha cercato una platea per parlare dei più ampli, diciamo, deliri cospirazionistici, quindi il gruppo Bilderberg, tutte queste minchiate qui. Quindi nella realtà dei fatti c'è solo una classe politica marcia di ladri che se ne deve andare a casa e che non è titolata per fare le riforme su cui far ripartire questa nazione, perché sono disautorati dalla Corte Costituzionale, dalla mancanza di un voto popolare. Scusi, però lei è d'accordo sul fatto che esiste... Innanzitutto io lo stavo difendendo, tu mi hai interrotto, Parenzo, perché io stavo dicendo che nonostante uno possa pensare tutto il male possibile, signor Di Stefano, di Casa Pound, eccetera, e ci vorrebbe, nel passato ci sarebbero state condanne a decine per la gente che fa le manifestazioni, si è arrampicato sopra un palazzo, cosa negativa, secondo me non si deve fare, prendere una bandiera, toglierla, 3 mesi e 100 euro, dai, su, mi sembra veramente una follia, lo dico. Giusto perché è così evidente, così plastica la cosa, perché non si è mischiato a gente con i caschi, perché magari l'ha fatto nel passato, non si è mischiato a gente con i cappucci, eccetera, altrimenti ogni giorno, ogni manifestazione... Ma è ovvio che Di Stefano paga un prezzo rispetto a altri che non hanno mai pagato nulla per prezzo, i cassonetti bruciati. Se ne fregherà. Noi comunque siamo andati col volto, cioè siamo andati mascherati da degli italiani morti dalla crisi, perché se vedete le immagini abbiamo una maschera tricolore. Senta, ma secondo lei esiste una... gli italiani morti che se andavano a riprendere... Ma secondo lei esiste una lobby ebraica che controlla il mondo? No, non esiste assolutamente nessuna lobby né ebraica, né cristiana, né marziana, né rettiliana. Esistono soltanto politici serbi che si vendono ai grandi gruppi finanziari. Cioè i banchieri ebrei esistono, questi che sono stati evocati nei giorni scorsi, banchieri ebrei sotto i quali sarebbe asservita l'Italia. Burattinai, grandi burattinai. Esistono banchieri, esistono gruppi di interesse finanziario, qualsiasi colore abbiano. Di fatto il signor Letta, palle d'acciaio, si presenta con la sua legge di stabilità in Europa, lo rimandano a casa e lui ritorna con la privatizzazione di Ansaldo Preda, che è la nostra azienda che produce treni. Chi gliel'ha chiesto? Tutte forse l'Alstom francese, forse la Bombardier canadese. Scusi un attimo, quelli ma gruppi di lei va a manifestare mercoledì? Andrà, per mangiarsi l'Italia. Andrà mercoledì a manifestare o no? Certo, noi andremo mercoledì perché siamo nel 9 dicembre dall'inizio e ci saremo fino alla fine. La presenza di Casa Pound solo sotto il tricolore, senza simboli, garantisce che questa sarà una festa, che saremo lì in piazza tutti allegri a sentirci l'inno e a chiedere delle cose precise. La prima cosa è che il nonno d'Italia Napolitano sciolga finalmente le camere. Il nonno d'Italia. Il nonno d'Italia Napolitano sciolga le camere, che non rappresentano più nessuno, che sono esautorate dalla Corte Costituzionale, dal fatto che il governo... L'abbiamo detto, lei mi sembra che se ne fotta dei votato il nuovo centrodestra. No, la pensa come voi. Grillo. Lei mi sembra di capire che lei se ne fotta totalmente di questa condanna. Diciamo la verità, lei se ne fotte, diciamolo chiaramente. È contento, anzi. No, io me ne frego della condanna. Oh! Lui dice me ne frego, ti ricordi? Me ne frego il nostro motto. Me ne strafrego della condanna. Oh, grazie. Me ne frego. Ancora a casa. Se non le dispiace, caro Dell'Utri, siamo ancora qua. Sì, per se ora. Non le dispiace. Per adesso. Per ora. Ridateci Laura Tangherlini, ridatecela subito, non solo perché è una bella ragazza, la signora Tangherlini, Rai News 24, una giornalista la quale in un fuori onda, con tutti le caculo che ci sono in tutto il mondo e che non vengono sospesi, invece lei è stata sospesa. Sì. È stata sospesa perché in un fuori onda ha detto che si è rotta il cazzo. E vabbè, sarà stata stanca, le notizie, annoiata, il collegamento. No, non doveva leggere le notizie, era un collegamento, non so cosa. No, era lì che leggeva, lì dal desk. Sì, no, sì, sì, sì, sì, studio. Certo. Che ne so, ho visto immagini distrattamente. So solo che la difendo a spada tratta la sospensione. Libera. Tanto libera. Libera. Libera. Libera come la Padania. Anche Bossi, anche Bossi per la Tangherlini. Subito, mai mulà Tangherlini, mai. Beh, mai. No, beh, però è romana la Tangherlini. Senatore, è romana. Allora va a far culo. Frega niente. C'è Renzo che potrebbe condurre Rai News. No, no, Renzo no. Rai News 24. Anche no. Inglese ho imparato in questo giorno. 24. No, no. Scusi, Bossi, che sì, c'entra sì. Renzo? 24. Renzo a Rai News 24. Beh, bravissimo, sa tutto lui di no. cose, di news. Ma non sa un cazzo. Di informazioni, di tutto. Ma non sa niente. Ha condotto il telegiornale. Ma scusi. Il Telepadania l'ho messo io, cretino. Beh, certo che l'hai messo tu. Scusi, la però, Lega, Bossi. Solo la Lega. Ma è vero che le raccontava. È un bel sito Rai News 24, è un bel sito dove andare. Però scusi Bossi, ma com'è sta storia che raccontava le palle che andava a fare gli esami a New York e invece era in Albania? A Tirana. È vero o no? Andando a studiare lì come ma no! A Tirana. Ma lei raccontava le cazzate. Ha detto due cazzate. E cosa c'entra? E allora? La Padania libera comunque, sempre libera. Ma scusi, ma le raccontava le minchiate che andava a New York? È andato a New York? Magari andava con qualche donna. E la Lega ce l'ha dura, andava bene così. Truffare sempre, truffare. Ma come truffare? È una partita IVA anche lui, che è un lavoratore giovane. Ha comprato una Red Bull con i soldi della regione. Allora... tutto quello che hai rubato tu con quella radio di industriali. Vabbè. Ogni giorno li rubi tu. Ma ai io ai non rubo ai. Niente. Te lo dicono anche la musichetta che metti ai ai ai, te la dice sempre. Vabbè, senatore, ormai è andato quello, La Tangherlini, me la fate sentire o no sta Tangherlini? Torniamo subito dopo in diretta su Rai News 24 con gli aggiornamenti delle notizie. Restate con noi. Restateci voi perché io me ne vado, può essere. Mi sono rotta il cazzo. Siamo al top! Ma che fa? Titoli del TG3. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Napolitano, grave disagio sociale, rischio tensioni, la gente chiede risposte, non elezioni. Berlusconi non evochi i colpi di Stato, deciderò se rimanere. Città nel caos per lo sciopero dei trasporti pubblici, cortei a Torino dove la protesta dura 24 ore, a Milano scontri tra studenti e polizia. Nell'Italia in crisi una famiglia su tre a rischio povertà, si tagliano i consumi alimentari, meno carne e pesce sulle tavole, si risparmia anche sul riscaldamento. Legge di stabilità, maratona notturna per esaminare gli ultimi emendamenti, domani sera in aula ma restano ancora contrasti su diversi punti. Renzi incalza il governo, riforme in 15 mesi, legge elettorale entro gennaio, Letta, cambiare un obbligo, faremo di tutto per riuscirci. Alfano, dopo le minacce della mafia ai magistrati, siamo pronti a inasprire ulteriormente il carcere duro per i boss, 4 giudici sotto alta protezione. Oltre 100 morti, la maggior parte civili, tanti bambini, secondo Al Jazeera. In Siria, nuovo raid dell'aviazione di Assad sulla città di Aleppo. La grande sfida tra Grillo e Renzi. Giustamente Grillo a un certo punto ha detto: senti, caro Renzi, qui voi i soldi del finanziamento pubblico non solo vi siete presi quelli di luglio, ma vi prenderete questi altri e ve li prenderete fino al 2017 diminuiti, dunque dacceli i soldi, restituisci i soldi del finanziamento pubblico, dice Grillo, e poi vediamo. Poi dice vabbè, altre cose contro Renzi, ma è evidente che Renzi è il suo competitore politico, no? Devo dire che mi ha fatto un po' ridere questa cosa di Renzi in cui dice rinunciamo ai 40 milioni se firmi le nostre riforme. E che c'entra? Uno se vuole rinunciare al finanziamento pubblico non è che lo baratta con le riforme. Poi non è che le riforme sono a disposizione di Renzi, poi. Però, adesso facciamo però il baratto, dai, facciamo il baratto. Però, signorino, scusi, dimmi. Adesso dirò una cosa impopolare, tutti si incazzeranno, però voglio dire, questo PD ha anche della gente che non è che dall'oggi al domani può mettere in mezzo a una strada, Cioè quei soldi del finanziamento pubblico che loro hanno diritto a invece intascare. Invece le aziende possono fallire, ma i partiti c'è no. C'è la cassa integrazione, come c'è la cassa integrazione c'è anche la per cassa i partiti, integrazione come sbagliato, c'è anche per i partiti. Sbagliato, l'hanno introdotta adesso, sbagliato. Comunque, ma devono salvaguardare dei posti di lavoro. Ma chi l'ha detto? Perché quelle delle piccole aziende chi li salvaguarda? Ma infatti, per le piccole aziende purtroppo non c'è la cassa integrazione. Ho capito, ma perché per i partiti ma sì? Ma non è che se uno sta male devono stare male anche gli altri. No. I partiti non possono fallire. E allora andate a stanarli. I partiti non possono prendeteli, fallire. Andateli a prendere per uno, allora. Buttateli in mezzo a una strada, sta gente. Guardate che vengo lì di pigliattarti in culo. No, non c'è bisogno. Nel 2017 bisogno. Il problema è risolto. No, c'è amico una mio, fase di amico mio. Vabbè, allora, i partiti, la regola è questa, quella dei politici. I partiti non possono fallire. E dunque teniamo i finanziamenti pubblici perché abbiamo assunto delle persone. Fino al 2017. Invece le aziende se ne fottono, possono fallire, non hanno ammortizzatori. Questa è la realtà. Infatti, questo è un dramma. E questa è la realtà. Per quelli privilegiati in Parlamento c'è la cassa integrazione, eccetera, eccetera. Per gli altri, le piccole botteghe. Un partito democratico che ha 200 dipendenti, per carità, io non vorrei mai che perdessero il lavoro, però succede ad aziende di 100 dipendenti, certo. Succede e nessuno dice nulla. Beh, nessuno no, si dice no, invece, perché no, si dice di modificare gli ammortizzatori sociali ma anche lascia per le piccole perdere, aziende, comunque scusa. Nessuno fa niente, lì in Parlamento si interviene per dargli gli ammortizzatori sociali, è una vergogna. Adesso, ma non è che adesso interviene quello lì che ha fondato un partito attraverso internet e in 5 minuti dice sì, ma su questo quel ha ragione, paese. Se vuole fare le cose serie, Renzi restituisca i soldi senza chiedere baratti. Sentiamo comunque Renzi. Vuoi che noi rinunciamo ai 35-40 milioni che ci saranno il prossimo anno per il PD? Ci costa molto perché la scomparsa graduale serviva esattamente a dare un passaggio. Bene, siamo disponibili ad accettare la sfida a una condizione. Non si fa un atto di resa mandato via email. Vuoi accettare? Beppe, firma qui. Di ai tuoi 60 senatori che accettano di firmare il nostro progetto di trasformazione del Senato in Camera delle Autonomie, zero indennità. Se non accetti, dice, sei un chiacchierone e un buffone. Se su questo ci stai, si fa. Se su questo non ci stai, sei per l'ennesima volta un chiacchierone. Se non ci stai, l'espressione buffone vale per te. Te lo dice il tuo amico Renzi. Poi le camere delle autonomie, la camera delle autonomie, basta con queste buffonate, chiudere tutto, la camera delle autonomie, ma che vuol dire la camera delle autonomie? Che vuol dire, cosa vuol dire concretamente chiudere con la saracinesca? Ci vuole la saracinesca, il Senato va chiuso, trasformato in una fondazione, i dipendenti purtroppo non li possiamo cacciare, dico purtroppo perché anche lì non può fallire come una normale azienda, benissimo, li dobbiamo tenere perché sono dipendenti dello scivoli, Stato, si fanno e scivoli, va benissimo, no? Si ma bisogna fare fondazione tutto. Senato, qui ci fu il Senato, una cosa storica per tanti anni, con i libri, le cose, uno può studiare, il Palazzo Madama qui. Punto, basta, la Camera delle Autonomie, e per fare che? Per fare che? Per mandare a Roma ogni tanto qualcuno? Così arrivano dalle regioni a Roma per decidere cosa? Basta una Camera per decidere, una e basta. Lino da Matera, buonasera Lino. Ciao, buonasera, senti, io ho ascoltato attentamente la trasmissione e io sono super d'accordo con te. Quando Renzi vuole ridare i soldi, deve dare subito i soldi. Subito, subito. Subito, perché non si può aspettare. Con queste baggianate che raccontano da decenni, sti morti di sonno e pezzi di merda che sono. Ma chi? Ecco qua. i politici, i veri. Vabbè, tutti, in generale, tutti i politici. Quando vedi una trasmissione, no, tutti i politici, quando tu vedi una trasmissione e uniscono almeno due persone, uniscono già 300 anni, il Presidente della Repubblica, che cazzo fa? E andasse a mettere il catetro, andasse a fare in culo pure lui. Perché combina solo puttane dalla mattina alla sera. È arrivato Lino. È arrivato Lino. Però, scusi, Lino, il suo... Lino in due minuti ha fatto la pipistruttura sul capo dello Stato. No, ma anche con lui, perché... Scusa, combina solo teatro. Ma che è sta ambulanza? È vera, non l'abbiamo mandata noi. No, è dove vera, cazzo stai? No, Lino. Per non spegnere la radio in macchina. E che passava? Che passava? Un'ambulanza? Che era? Un'ambulanza, davvero un'ambulanza. Oppure... Ma non era per Parenzi. No, è una volante che te... Oppure una volante per te. No, la volante, no, addirittura la volante no, perché comunque dipendesse da me, sì. Tutto vorrei far tranne che una rivoluzione armata, sì. Perché non è che ci manca. Scusi, ci se avessi da... Lino, se avessi di fronte, sì, Napolitano, che faresti? Di fronte a te, signor Napolitano. E gli metterei una badante rumena. Come una badante? Una badante, una rumena, una banetta, tanto di rispetto, e la manderei a casa, ad accudirlo, bello, tranquillo. Ogni la mattina i giornali, il corno, perché poi la cosa... Aspetta lì, Giovanni da Campobasso, Giovanni. Buonasera. Buonasera, io dica. Stasera non chiamo per litigare, no, non chiamo per criticare. E chi vuole litigare? No, ho chiamato io. E parla. Allora voglio dire, sì, facciamo un'opera di beneficenza per un mese. Sì. Io mi vesto da Babbo Natale, sì, Parenzo da Pulcinella, sì, e tu da Arlecchino, perché tu un po', sì, la faccia da Arlecchino ce l'hai, che poi, ti conosco. Poi? E andiamo a fare beneficenza ai bambini per un mese, che è Natale. Sì, e noi che facciamo? Vabbè, invece? Venite con me, sì, andiamo tutti e tre. E come guadagniamo da vivere, sì, noi? No, non dobbiamo guadagnare. Dobbiamo, non dobbiamo guadagnare, no. Beh, beneficenza, sì, vabbè. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti, Padania bella e libera, guarda avanti. Servi di Roma fuori. Il nuovo segretario della Lega Nord, Salvini, è passato dalla sinistra, perché era uno di sinistra, Salvini, guarda avanti. Non dimentichiamolo. All'attacco frontale contro l'euro, giudicato come una sorta di boia. L'euro è il disastro, l'euro è un crimine contro l'umanità. L'euro è stata ed è una moneta criminale. L'euro è un crimine contro l'umanità, contro la nostra impresa, contro la nostra agricoltura, contro la nostra economia. Figlia della libertà. Le mutande di Cota, ingoiatevele. Ci rompono i coglioni sulle mutande. Uno Stato ladro. Uno Stato ladro che ci ha lasciato in mutande. Ci rompe i coglioni sulle mutande. A qualcuno rode che grazie alla Lega i consiglieri regionali hanno avuto lo stipendio dimezzato e i cittadini piemontesi risparmiano 30 milioni di euro all'anno. Ma ingoiatevele le mutande se avete tempo da perdere su queste cazzate. Caro Salvini, va bene tutto, però lotti come un leone, per carità. Come lotta a difendere le mutande color verde, per giunta, quello è grave. Quello è grave. Una spiegazioncina sulle mutande ci dovrebbe essere. È stata la segretaria a sbagliare? Sono state comprate con i soldi nostri oppure no? Perché sono state messe... No, nel conto nella comune nota spese. Nella e nota perché spese. Sono verdi soprattutto? Beh, perché questo mi manda in bestia, questo fosse state blu, vabbè, blu, ma verdi, verdi. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Mutande anche ai rom. Beh, vada avanti. Chi ci attacca lo andiamo a prendere a casa. Questo sempre stato il signor Salvini, sempre. È molto borghezio, molto, molto Marione. Fa molto Marione. Dobbiamo fidarci l'un dell'altro. Chi tocca uno dei nostri deve cominciare ad aver paura. Chi arresta un nostro sindaco deve cominciare ad aver paura. E se lo ha arrestato senza motivi, lo andiamo a prendere a casa, dovunque sia e comunque si chiami. chi attacca la nostra gente deve cominciare ad avere paura, perché siamo persone per bene, siamo persone educate, ma il troppo è troppo, il troppo è troppo. Bah. Anche qui non si è capito, se uno attacca la Lega deve avere paura perché può subire non so quali situazioni. Il nostro amico Savi, molto grave quello che ha detto. Perché poi quando uno diventa segretario, cioè dovrebbe avere i toni più istituzionali, no, ma senti, invece della Lega è esattamente l'opposto. Diventano ancora vabbè, perché più, sai, questi ovviamente perché devono titillare il popolo, sì, il devono popolo cercare della voti Padania, perché titillarlo. Sono dopo Bossi bisogna cercare i voti, dopo i disastri della appunto, famiglia Bossi. Quindi per quello devono. Senti Pellegrin, conduttore, no, nostro amico, no. sì, il nostro amico conduttore di Radio Padania. Arriva adesso la querelina Pellegrin. No, Pellegrin dice che le migranti bulgare sono delle schifose, c'è stato un episodio di cronaca. Ma senti Pellegrin, questo conduttore di Radio Padania. Senza pietà, queste ladre migranti bulgare. La donna l'ha afferrata per la giacca nel tentativo di bloccarla, ma è stata trascinata per una decina di metri dalla migrante ladra che nel tentativo di divincolarsi l'ha ripetutamente graffiata. Speriamo che abbia fatto l'antirabbica. Identificate le due rapinatrici, schifose, due schifose migranti bulgare. Signor Pellegrin, ma dove è cresciuto? Ma dove ha fatto uno stage questo? A Radio Goebbels? Dove ha fatto lo stage questo qui? A me piace lo signor Pellegrin. Ma dove ha fatto lo stage questo? Ma poi come dice con disprezzo la parola bulgare? Sì. Ma come si permette? Ma da dove ha fatto Cucus Clan? Dov'è che ha fatto lo stage? Senti quest'altra cosa. Bisogna izzare e insultare la gang, senti. Lombardia e Felix, io l'ho detto. Provate a insultare, andate su Twitter, su Facebook, faccia da libro, insultate pesantemente, datele dell'orango, datele del quello che volete, non fatemi usare linguaggi non consoni perché ci sono anche ragazzini, magari qualcuno vi denuncerà e così pubblicamente potrete dire la gang non sta facendo niente, qualcuno aiuti queste povere persone che sono là e non si sa neanche quando rientrano. Ah, questa è la vicenda del Congo, sì. Buona Padania a tutti. Beh, insomma, dipende. Guardava. Siamo qui, Massimo, provincia di Cremona, 800240024 è il numero magico per chiamarci in diretta. Massimo. Oh, buonasera, siete fantastici. Aspetta, Massimo, c'è ancora Lino, che vuoi, Lino? Matera. Mi hai bloccato, e niente. Perché, che volevi dire? T'ho bloccato, hai detto napolitano c'ha il catetere. Di più non si può dire. Non lo so, che vuoi dire di più? E che voglio dire? Che dovevano levarli tutti e mettere nuove forze, ragazzi. Ma chi li deve levare? Secondo me la cosa che c'è da fare in Italia è levare i segretari di partito, perché vengono tutti comandati, e mettono le persone proprio quelle ad hoc, quelle ad proprio hoc, da pilotare proprio. Che poi succede. Com'è? Che no, scusi, non riesco a capire esattamente questa cosa di togliere e mettere persone ad hoc al posto di segretari di partito. Togliere e mettere persone ad hoc. Più oneste, gente più onesta. Perché certo, comunque certo. Chi va a volte gira tutta una massa di fetendi, caro signor Parenzio. Quando se ne vanno a fare però i viaggi dalla Boldrina e tutto, sì. Se tu vedi in televisione vanno sempre, anzi adesso non hanno vergogna di andare a fare le trasmissioni, mandano giovani allo sbaraglio, i vecchi non ci vanno più, che cazzo devono dire? Ma la Boldrini in Sudafrica, che pensa lei della Boldrini in Sudafrica, Lino? Giudizio di è andata a fare solo scene, fanno molto uomini e donne, capisci? Come fanno uomini vedere e donne? Nel senso che fanno le sfilate, capisci? Si fanno vedere. Vabbè, che sono, hanno fatto 11 ore di viaggio, sono arrivati e poi sono ripartiti. Sì, quelli non si rendono conto che l'acqua è poca e la papera non galleggia, caro mio. Com'è la storia? Com'è questo detto della l'acqua papera è poca e la papera non galleggia. Ma che cazzo vuol dire? Scusa, vuol dire che qua i soldi sono diminuiti a tutti quanti. Loro mangiano a due bocconi, sì. E quando devono eliminare i senati si levassero una parte di stipendi che danno ai cazzi loro e li dassero a chi vive, a quelli del senato. Vabbè, agli impiegati, perché c'è gente. Ma gli impiegati del senato vivono molto bene, le posso assicurare, Lino, cioè, i dipendenti del senato vivono molto molto bene, non si preoccupi. Sedi di partito, quando foraggiano le sedi di partito. Ciao Lino, chi c'era? Ciao. Massimo, provincia di Cremona. Lino da finalmente. Allora? Voi siete fantastici, perché vabbè, allora vado avanti, su. Riuscite a far sentire liberi proprio tutti, fate parlare tutti. In ogni caso io sto con i forconi. Lei sta con i forconi, bene. Dunque, esatto, perché tanto si sono divisi, peggio del Partito Democratico, ma sono no, questi ma la siamo perdere, no, peggio di un partito con le correnti, allora, sono divisi, alcuni vogliono partecipare, altri vanno, altri non vanno, ma, quello è più vero, di destra, quell'altro un po' più. per creare l'ordine pazzesca. Ci vuole. Avevamo ragione noi sin dall'inizio, oltre a dire tutti a casa, non c'è niente sotto. Ma non è vero, non è vero. Qua non c'è nulla, avevamo cioè, ragione noi. Tutti insieme, uniti. In ma uniti per chiedere cosa? Per chiedere cosa? Per chiedere un cambiamento, perché così per non chiedere un cambiamento. Per chiedere un cambiamento. Ma pure mia figlia lo potrebbe dire una cosa del genere. Ma non è vero, basta, non se ne può più. Adesso dobbiamo cambiare. I partiti hanno stufato, non hanno più ragione di esistere. Ci vuole un centrodestra e un centrosinistra e basta. Centrodestra e centrosinistra. Governa bene il centrodestra, va avanti. Sì. Se non governa bene, va il centrosinistra. Vabbè. Basta. Cosa ci servono tutti questi certo. partiti? A che servono tutti questi partiti? E, come la gente. E chi va in Parlamento? Scusi, se uno chi non va in i parlamentari. La gente. No, la gente. Se ti candidi e va in Parlamento, però ci vuole un centrodestra e un centrosinistra. E rappresenta... grazie di questa riflessione. Grande. Ci ha messo tutto il weekend per pensarla e il lunedì mattina. Ma cosa stai dicendo? Sentiamo Attilio da Monza. Vai a casa, Massimo. Vai a manifestare per strada con i forconi. Attilio da Monza. Sì, stavo pensando una cosa mentre tornavo a casa, ma il pagliaccio comunista che era di fianco, ma le cazzate le pensa la mattina? Quando le pensa le cazzate? Quando quell'unico neurone si renderà conto di essere da solo e si suiciderà, che farai? Che praticamente il governo decide che domani dobbiamo pagare un punto percentuale in più di IVA, domani noi lo paghiamo. E non nel 2017, quando lo pagheremo domani lo paghiamo. E come fa Parenzo a dire che è giusto che vengano sommersati i partiti per mantenere... Perché gli piace il finanziamento pubblico. Io credo che una piccola parte vada destinata al finanziamento... Ma come è possibile? Ma come è possibile? Ma caro mio Attilio, la ragione per cui dice queste cazzate? Ma caro mio Attilio, perché la democrazia ha un costo. Non sa cosa vuol dire la non sa cosa vuol dire rischiare passo di lavoro, perché è sempre stato tranquillamente seduto sugli allori del suo cognome. Ma quali allori? Che mi sono dimesso dal tempo indeterminato in passato io, ma che vuoi da me? Mica c'ho il posto fisso io, Attilio. Attilio, quando quell'unico neurone che la è da solo gira si renderà conto di essere solo, quello si suiciderà, quell'unico neurone che ora le permette di dire, di articolare parole, ora, capito? Io sono a favore di una piccola quota di finanziamento pubblico, mi vuole impiccare per questo? Le posso chiedere una cosa, ma so che forse qualcuno gli ha già detto, ma ci sono tanti altri comunisti molto più intelligenti, tipo Telese. Ma perché non prende Telese, che questo qua che non capisce un cazzo? Ma perché? Me lo chiedo. Scusa, Attilio, però scusami un attimo, avrà diritto di pensare Parenzo che ci vuole una parte di finanziamento pubblico, oppure è un criminale? Io lo contesto, per me va cancellato tutto finanziamento pubblico ai partiti, cancellato subito, non ieri, subito, non nel 2017. Ma che hanno fatto? Una presa per il culo, dai, smettila con questa roba qua. Nel 2017 probabilmente ci saranno anche più soldi, è possibile che ci siano addirittura più soldi ai partiti col meccanismo del 2% e altre cose. Troveranno l'escamotage. Poi questa cosa del 2017, sempre rimandare ad altri, chissà cosa succede dopo il 2017. Esatto. Poi arriva un altro Parlamento e cambiano di nuovo la legge, dai, su, è una buffonata. La gente normale il giorno dopo sta a casa, la gente normale rischia di stare a casa il giorno dopo, non il 2017. Noi paghiamo le tasse domani, non 2017. Ma è possibile che non ci arriva? È un giornalista intelligente, acculturato, non è stupido, perché lo riconosco, non è stupido, ma come fa a dire queste minchiate? Perché credo che sia una parte di soldi utile da destinarsi al finanziamento della... Una parte, non c'entra con gli scandali che ci sono stati nelle regioni. Ma non ho capito che in questi anni ci hanno preso per il culo, non l'hanno mai utilizzate per il senso che Allora, vota Grillo, vota soltanto quelli ricchi, arriveranno i russi e faranno i loro partiti con i soldi d'Italia. Chi avrà c'entra soldi niente, farà il dai, suo partito, ciao. Su. Ciao, Attilio. Well now, little mosquito, there must be. Beh, un grande ritorno alla Zanzara, caro Parenzo, un molto grandissimo bene. Ritorno alla Zanzara. Beh, oggi è un giorno indicato per il suo ritorno, perché si è parlato del volo di Stato della Boldrini, fu crocifisso, ricordiamolo questo qua, fu crocifisso anni fa per aver portato il figlio in un volo di Stato insieme a Rutelli al Gran Premio di Monza, aveva un appuntamento là vicino il giorno dopo, fu crocifisso, non ci fu un euro in più di spesa come per la Boldrini, però il trattamento della stampa è stato diverso, era Mastella, il simbolo della casta, no? Dall'altra parte c'è la Boldrini. Capito? Questo non c'è dubbio, eh? Clemente Mastella è con noi, buonasera. Buonasera a lei, buonasera. Ecco. Sì, ha detto molto bene. Cioè, adesso non mi dica così, perché sennò. No, cioè nel senso ha rievocato i fatti per come sono, non è che mi sta facendo una marchetta, assolutamente no. Devo dirle che io finii davanti al Tribunale dei Ministri e davanti alla Corte dei Conti, poi prosciolto evidentemente. Sì, sì. Beh, la cosa mi ha dato un po' fastidio ed è stato il motivo vero della reazione, un po' perché lo dovevo a mio figlio, che rimase malissimo in quella circostanza, cioè l'ha visitato e quindi fu tutta colpa mia evidentemente. Però la cosa strana è che ieri lo stesso gruppo editoriale che fece una campagna di stampa contro di me, con le foto, cioè Repubblica, dappertutto, il gruppo dell'Espresso. Sì, l'Espresso, sì. Ieri Repubblica, nel difendere maldestramente la Boldrini, ha detto: ma questo non è il volo come quello di... Ah, come no? Hanno scritto questo, sì, hanno scritto questo. Esatto, questa è la cosa che mi ha fatto più incazzare. Cioè, nel senso, non solo difendete in maniera ipocrita e assurda, no, una cosa che finisce per essere indifendibile per molti aspetti, ma quando richiamate in campo me per fare la cosa, dice: ma questa è una cosa diversa. Dov'è diverso? Cioè, io portai solo mio figlio. Sì. E che fa? Mio figlio ha speso più kerosene lui che tutta la compagnia della Boldrini e dei suoi dello staff della Boldrini. No, tra l'altro il capo della comunicazione della Boldrini, scusi un attimo Mastella, il capo della comunicazione della Boldrini, Natale, ha detto: beh, non si può paragonare il volo della Boldrini con quello di Mastella, sono due cose diverse, come per dire, quello è Mastella che è andato a vedere il Gran Premio, noi invece siamo andati quest'altro, come dire, giornalista, che il mondo ci invidia, quindi se ne esce con una cosa che francamente loro Natale. non dovevano andare questo Natale, si è andato Natale agli altri per la semplice ragione che la delegazione era a Capoletta, che è andata a fare la Boldrini agli altri. Io sono d'accordo con lei su questo, ci è andata perché ci voleva andare. Se lei fosse stata l'unica come capo delegazione, benissimo, portava chi voleva, ma è la terza carica dello Stato, il cerimoniale era suo carico, a suo favore, cioè nel senso che poteva scegliere e sceglieva. Ma è la terza carica dello Stato. Già, tra i 100 là non sanno chi è eletto. Immagino se sapessero chi è la Boldrini. Sì. Ah, dici che non sanno neanche chi è eletta? Ma pare che tra tutto il Toto là chi c'è il... Tutto. Quindi magari c'è pure qualche tutto là, che ne so. Da dove parte. Ma le pare che chi aveva influenza la presenza della Boldrini. Via! Ma poi questa difesa assurda, e questo fatto di comprarmi con me, questa è la cosa che ho fatto. No, ma infatti questa l'ho trovata veramente una cosa folle, perché ci sono voli di Stato e voli di Stato, quello era un volo di Stato. Ma va spiegato questo, non per difendere nessuno, perché non mi interessa, la Boldrini è la terza carica dello Stato. Beh, ma sono d'accordo con me. Non c'entra nulla, io ero ministro della giustizia, avevo diritto per ragioni di sicurezza a girare con gli aerei di Stato come la Boldrini. No, ma infatti, Mastella, su questo non c'è ombra di dubbio. Si esagerava con gli aerei di Stato prima, questo bisogna dirlo. All'epoca si esagerava molto con i voli di Stato. Comunque, ricordiamo anche, Mastella, che quell'aereo lì era un aereo che doveva prese Rutelli, perché l'aereo di Stato mi sembra io voglio dire a questo, come si chiama, Diddi Doddo, come Natale, si chiama questo, Natale. Sì. Scusa Natale, io ho fatto risparmiare perché io anziché partire il lunedì quando avevo un impegno istituzionale a Brescia, io sono andato la domenica, quindi anziché partire tu aerei è andato uno solo. Sì, ma questo me lo ricordo. No, ma questo continua a dire Natale, no, perché è una cosa che è diversa, Natale, ma è vero che siamo a Natale, ma tu sei a Pasqua, stai con la testa. No, perché sei a Pasqua? No, però devo dire la verità, quando uno dice il portavoce è il Presidente della Camera, no, però... Roberto Natale, tra l'altro dovresti conoscerlo, Mastella, tu che sei giornalista, Roberto Natale. Ma io lo conosco benissimo, ma non è questo il punto, uno non può dire, chi se ne frega, uno se lo conosce o non lo conosce, no, l'importante è quello che dice, non è che uno deve difendere nessuno. No, se uno dice, però il volo è diverso. Noi siamo andati, no? Il volo per Mastella sono due cose diverse. Ma che diverso? Quello è il Presidente della Camera che non si capisce perché si accoda a un viaggio. Scusi, voglio dire sempre a questo signor Natale, bisogna Natale. Il Capodanno. Sì. No, Natale. Roberto Natale. Voglio dire, a parte il fatto che il volo era il mio, io ho preso il passaggio da Rutelli, non era il volo manco mio, cioè attribuito a me come carica. Sì. Beh, uguale, avete scroccato il volo, pure la Boldrini ha scroccato il volo da Letta, se è per questo. O no? Sì, esatto. Beh, allora lei può dire una cosa di questo genere, ci sta, voglio dire, non è che... Però il passaggio, la cosa simpatica, no, Ma non abbiamo fatto aggravio, io ho fatto aggravio. Poi abbiamo fatto aggravio ed è speso più kerosene, che eravate in più, non io. Comunque, perché se uno è più persone spende più kerosene, quella è la cosa che... Cioè, se il peso è maggiore, ovvio che il carico è maggiore, quindi va un po' più lentamente. Ah, per cui non è vero che non è vero in realtà che non si spende nulla in più. Più persone ci sono e più kerosene si spende, diciamola tutta la cosa. Diciamola. Comunque, io devo dire la verità. All'epoca ci fu un tiro al segno nei confronti di Mastella per questa roba qui. Era un'altra epoca. No, scusi, a me la cosa mi farebbe piacere, anzi, posso utilizzare voi per fare questo tipo di messaggio. Sergio Rizzo, dove sei? Non ho visto scrivere nulla. Gian Antonio Stella, tu che pure in questi giorni hai detto a Mastella perché ha fatto la scelta di Forza Italia, come me non scrivi nulla al riguardo? Ti aspetto al varco. Ah, tu dici sei un giornalista senza remore, senza reticenze. Questo deve toccare anche il Presidente della Camera eventualmente, perché se ritieni, come spero che lo tenga, come altri, che la situazione sia un po' strana. Ma sai qual è la cosa simpatica? Qual è? Mi stanno chiamando più deputati altri di sinistra che quelli di destra in questa vicenda. Cioè? Esprime solidarietà a me. Cioè gente del PD, dici? Sì. Perché non la possono vedere? Cioè, appunto, quasi dire che non la sopporta nessuno. Lei, io la dico. Vedo quando è in televisione, che non posso dire se la posso vedere o la posso vedere, perché non la vedo, quindi come tale la vedo in televisione quando capita. Però è vero che c'è questa cosa insopportabile di due pesi e due misure, su questo non c'è dubbio. Dai Parenzo, questo lo devi ammettere anche tu, che non sei un mastelliano. Io ma no, ma io figuriamoci assolutamente. A me Mastella mi è sempre stato simpatico, la questione è molto semplice. La questione è che lei dice era in visita, va per rappresentare il paese. Ma non è vero, c'era Letta a rappresentare il paese. Dai, c'era Letta, su. Le Marche rappresentava. Dai. Rappresentava le Marche. Rappresentava le Marche, dice Mastella, che devi fare? Comunque, la questione è molto semplice. C'è stato un trattamento infame di Mastella. Poi all'epoca poteva essere anche giustificato dall'uso indiscriminato delle auto, dei voli di Stato. E in questo caso, invece, solamente i giornali di destra se la sono presa con la Boldrini. Il resto, tutti quanti, Repubblica è incredibile. Repubblica ha detto: no, però i voli sono diversi. L'attacco dei giornali di destra contro la Boldrini. Ma lo sa una cosa, per dire l'ipocrisia, ma allora le faccio fare un mezzo scoop. Sì. Va bene? Sì, io ho scoperto, a distanza di tempo, che sull'aereo su cui salì io c'era, tra gli altri, un funzionario della Presidenza del Consiglio che era, credo, nella segreteria di Letta. Allora Letta, l'attuale Presidente del Consiglio, era sottosegretario alla Presidenza. Sì. Tenga conto che chi stabiliva alla fine per decidere per i voli se sì o no, credo che fosse sottosegretario alla Presidenza che dà l'autorizzazione, non il Presidente del Consiglio. Il sottosegretario alla Presidenza, credo che fosse così. Innanzitutto io non so chi è che abbia autorizzato questo signore a stare isolato di Stato, perché lui è andato a vedersi il Gran Premio, questo signore. Sì. Passano 4-5 mesi e questo signore fa una dichiarazione dicendo: io ero sul volo dove c'era Mastella, non ha detto neanche Rutelli, sul volo dove c'era Mastella con il figlio. Sì. Io mi pento di essere andato su quel volo. Sì, me lo ricordo, per me si è andato su quel volo, non avevi diritto. Me lo ricordo. E poi dice: per questo io mi dimetto dall'essere in segreteria nello staff del sottosegretario alla Presidenza. Sì. Va bene? Dopodiché esce una nota di Palazzo Chigi che dice: benissimo, questo è il comportamento serio. Anziché dire chi cacchio ce l'ha mandato là, chi gli ha dato il permesso prima, dicono dopo: questo si è comportato bene perché si è dimesso. Ma è incredibile. Cioè, per cui non ho capito quale sarebbe la cosa. Peraltro dicendo anche una cosa sballata, dicendo chi ero tornato con l'aereo fino a Roma, quando invece io mi fermai a Milano e andai a preso il giorno dopo. Questo qua fu autorizzato da Letta, l'attuale Presidente non del Consiglio. Non so chi, certamente qualcuno ha autorizzato, non io. Fate l'indagine, chi autorizzò questo signore? Basta che cliccate nel settembre del 2007. Sì, me lo ricordo. Dicendo: voli di Stato, Mastella. Mazza, quanto è incazzato. Mastella, oggi lei... chi l'autorizzò a questo? È incazzatissimo, non gli è andata giù questa roba. Ma giustamente... Ma perché sono incazzato, lo voglio dire. Sì. Perché la cosa che più mi ha fatto male è che entrò in crisi mio figlio. Vabbè, adesso. Perché poveretto, insomma, non sarebbe mai venuto, non l'aveva mai preso, insomma, venne con me perché io chiesi il permesso per venire con me. Io fui autorizzato per il permesso. Sì, Vabbè, diciamo che però una volta si era piuttosto faciloni su queste cose. Una volta si esagerava così adesso... di Stato. Però in questo caso. Non dite così faciloni, perché stavolta è stato molto, molto, molto più facile Ciccioni. Ciccioni. Presto vedrai, verrà. Mi chiedevo, caro Parenzo, ma esiste ancora l'Udeur di Mastella? Sì o no? Beh, l'acqua è poca e la papera non galleggia. Ma scusi, Mastella, esiste ancora l'Udeur o no? Ma... No, non esiste. Ci dia questo annuncio che non esiste più, Mastella. Sostanzialmente no. Dal 2008 che non, sostanzialmente non c'è più, da quando successo i noti... Non c'è più. È una cellula dormiente. Ma lei ha preso la tessera di Forza Italia o no? No, ancora non c'è il tesseramento, quindi non posso prenderla. Però la prenderà, però la prenderà. Se ho là, sì, ma io già sono stato eletto con loro nel... Beh, la prenderà, ma diciamo. Si ricandida alle europee, sì. Si ricandida alle europee. Non è che ha deciso io. Io, se ci sono le condizioni, mi candido. Se non ci sono le condizioni... vabbè, quello si dice sempre, su. Mi candida, no. No, d'accordo, però lei, diciamo la verità, l'ha già detto insieme a sua moglie. Nel caso delle elezioni, è un po' come, sai, la storiella di... di Pulcinella che andava accompagnato dai carabinieri. Qual è? E allora la gente lo fermava e diceva: Pulcinella va in galera. Dice, mi portano, così io, se mi portano il candidato vado, se non mi portano e non posso farci nulla. Beh, questo d'accordo. Questo d'accordo. Però ha parlato con Berlusconi di questa roba qua, sì? Sì, sì, ho parlato. Allora? Ci dica qualcosa, sulla tessera, la piglia di Forza Italia o no? Ho parlato. No, non c'è ancora, diciamo. Sì, ma però ci sarà, quando ci sarà. Quando ci sarà, la prenderà la tessera insieme a sua moglie? Prendo, sì, la prendo. Oh, finalmente. Mastella dentro. Cioè, quante preferenze porta in dote lei al signor Berlusconi? Parliamoci chiaro. La volta scorsa io ho preso quasi 120.000 voti. Cioè, 120.000 le truppe mastellate valgono ancora 120.000 Mastella, voti. A Berlusconi, cioè, il nome Mastella vale 120.000 voti. Beh, un po' meno, secondo me, 100.000. No. Può darsi anche un po' di più, perché tenga conto che a partire dai miei figli che vivono chi a Roma e chi in Liguria non hanno votato per me, quindi c'era qualcuno, 120.000 più due. 120.000 più due sicuri, lei dice, però poi l'Udeur, esatto, oltre i confini di Benevento mi sembra un po' tosta, però qualcosa si raccatterà. No, c'è stato. C'è stato qualcosina. Cioè, comunque 100.000, Mastella, la Zanzara, però lo sai che è una cosa in comune con Renzi, Mastella? Cioè, che è De Mita, avete una cosa in comune. Sì. Caro Clemente, avete una cosa in comune. Qual è il rapporto di Renzi con De Mita, oggettivamente? Conosco il mio, ma non so quello di Renzi. Però c'è stato. Però dico subito, a me Renzi non piace, è un po' Machiavelli, un po' Guicciardini, non mi piace. Come un po' Machiavelli, un po' Guicciardini, che significa? Non mi piace. Cioè, ma perché? C'è un motivo particolare, perché? Cioè, che ha preso peggio di De Mita, ha preso, per esempio? Probabilmente sì, si è preso a De Mita, non lo so, insomma, come scuola di pensiero, non lo so. Ma non mi piace anche questa cosa di far fuori tutto e tutti, cioè di essere dissacrante con tutto e tutti. Non è una cosa che appartiene, diciamo, tanto alla ciclicità. A parte il fatto, non è il primo inventore di questo, perché, come ho detto io, il Midas di Craxi, Signorile, De Michelis, è costituito uno degli elementi di cambiamento generazionale. E invece? Ma lui, insomma, però c'era rispetto anche di quelli che sono vecchi, cioè per esempio su D'Alema non ha avuto rispetto. Sa qual è la cosa che voglio spiegare? Se uno pensa, magari D'Alema pensasse di giocare in prima linea, in prima fila, non capisco. Ma come capita con i grandi calciatori? Cioè uno arretra, se è stato un grande centrale, poi arretra più a centrocampo. E allora? Ma se devo proprio togliere fuori squadra, e francamente togli uno, togli l'altro, dopodiché finisce il Farasi e il Buridano. Cioè la vita è fatta da giovani, anziani, donne, bambini, insomma un partito è uguale. Lui sta mettendo gli anziani un po' in disparte, sta mettendo gli anziani. No, ma puoi mettere a fare giocare un ruolo diverso, che è diverso da farlo sentire in disparte. Se uno gioca un ruolo diverso deve capire come me, che non è che posso avere... Cioè lei tra D'Alema e Renzi non ha dubbi su chi scegliere. Questo avrei scelto D'Alema, si mi pare abbastanza evidente. Avete avuto un rapporto, il governo, le cose, dai. Certo, esistono anche queste cose. No, sul piano. Però scusi, non c'è paragone a livello politico tra i due, tra D'Alema e Renzi, non c'è paragone, Mastella? Ma D'Alema ha fatto una parte di storia italiana, è stato il primo presidente post-comunista. Renzi ancora deve dimostrare che cos'è. No, però a livello di spessore dico, no? O no? Ma per ora, come dire, l'uno c'è stato, l'altro non sa di esserci. Senta, mi dico la verità, secondo me lei è favorevole ancora al finanziamento pubblico dei partiti, è vero? Ma non me ne frega niente, però le posso dire una cosa. Ritengo una sciocchezza, cioè in tutta Europa c'è un finanziamento. Cioè nel senso che, insomma, noi finiremo per fare dell'Italia tipo gli Stati Uniti. Ha visto, per cui siamo arrivati a 2 miliardi, 3 miliardi o 5 miliardi di dollari per fare la campagna. Ma almeno sono raccolti in maniera trasparente dai candidati. Ma tanto trasparente può non essere, si scopre ogni tanto che magari la multinazionale cinese ha finanziato il governo. No, si deve sapere. Si deve sapere, meno male che si sa. Adesso in America. Mi dica la verità, Mastella. Cioè, siccome nella nuova legge sarete voi a dover bussare porta per porta a chiedere i soldi, se lei oggi dovesse bussare alle porte di Roma o di qualsiasi città, dire sono Mastella, mi dà un contributo per fare politica, che cosa avrebbe in cambio secondo lei? Vuole la mia opinione, troverei la povera gente che magari ti dà mezzo euro e trovi i ricconi che non ti danno un cazzo addirittura. Comunque lei è favorevole che resti una piccola quota di finanziamento pubblico. Ha ragione. Sì, dopodiché il pro è la garanzia che venga spesa in un certo modo, insomma, ma vabbè, non è quello... che sia dell'eliminazione, perché insomma noi finiamo a fare la politica soltanto per i ricchi, cioè chi è ricco può fare politica. Ma non è vero, sono drammaticamente d'accordo. Ma non è vero, ma perché è successo anche adesso col finanziamento pubblico, Berlusconi, Grillo, gente comunque che non è che sono dei poveracci, hanno fatto lo stesso politica col finanziamento pubblico, dai, ma non è non è così. In America poi non ci sono i ricchi che fanno politica. Secondo me non è proprio così. Allora devi eliminare anche il finanziamento ai gruppi parlamentari. Senta, che darebbe in cambio di uno scudetto del Napoli quest'anno? Chiederei in cambio lo scudetto del Napoli quest'anno. Quest'anno il Napoli vince lo scudetto, lei rinuncia ad andare al Parlamento Europeo, su, facciamo così, facciamo un bello scalo. No, questo no, ma come no? Qualcosa in più. No, questo non è in più pure, no. Non mi faccio questa cosa del meglio stare al Parlamento Europeo e il Napoli non vince lo scudetto. Magari anche rinviare le elezioni politiche quest'anno, ecco. Vabbè, ma questo lei che vuole, no? Comunque se si va alle elezioni politiche in Italia, lei si candida in Italia? Guardi, se cambia la legge elettorale c'è bisogno, diciamo, di gente che sia nel territorio, secondo me c'è un grande ritorno nel territorio. Grande ritorno nel territorio. Della gente porta, lo sbandamento porta anche ad avere punti di riferimento che non ci sono più. Cioè la legge del Porcellum era sbagliata. Comunque lei si vuole candidare, o in Europa o in Italia, lei si vuole candidare comunque. Ma la gente comunque per strada glielo chiede di candidarsi probabilmente. Ma glielo chiede ancora la gente di candidarsi? Sì, Mastella. Come no. Guardi che sono guardato con maggiore simpatia di quello che pensate. No, infatti, chi dice di no? Ma io sono veramente convinto. Non avevo un cacchio, perso il potere, dice Mastella il potere, sì. Non avevo un cazzo. Quello è vero. Alla fine mi hanno votato 120.000 persone. Poi ha cominciato. Non avevo assessore più, non avevo il sindaco, la città che me lo lasciava, ma hanno lasciato tutti. Lo so. Ho soltanto la solidarietà della gente comune, cioè il popolo minuto. Poi si è cominciato a tingere i puri capelli. Quelli che ho portato anche i miei amici, tra virgolette, sì. Quelli ho portato al potere, ma hanno lasciato tutti perché hanno difeso il loro potere. Poi si è cominciato a tingere i capelli. Si è cominciato anche un po' a tingere i capelli. Io l'ho fatto già da prima, è una specie di, come dire, di è un vezzo berlusconiano. Ma non mi dica, non mi dica che sua moglie è contenta della tintura dei capelli, perché non ci credo. No, ha ragione. Ebbene, infatti lo intuivo. Secondo me sua moglie non è contenta, dice, ma perché? Però, insomma, questo è peccato veniale. Ma lei ce l'avrebbe tutti, se non si ritingesse, lei ce l'avrebbe tutti bianchi, Mastella, no? Ma sai qual è la cosa? Se fossi tutti bianchi mi piacerebbe pure, invece sono strani come vengono. Mi ho fatto una volta le prove quando ero che non sono uscito per un periodo. Sì. E porca miseria, mi venivano un po' strani questi capelli. Cioè, tutti un po' bianchi. Non ero più di un modo né un altro, ero proprio. Brutti. Però brutti, ecco, brutti. Almeno questo si impegni questo. Cioè, qualora ci fosse la campagna elettorale, lei non si tingerà più i capelli. No, come no? Sì. Come, perché l'uomo dice che non si deve tingere più i capelli bianchi, dà anche più autorevolezza. Ma non ce li ha bianchi, è questo il punto. Tutti bianchi? Non lo so, se poi mi devo tingere o non tingere, non lo so. No, questo secondo me è la cosa principale, che mi tingi questi capelli. No, per carità, è un vezzo. È un vezzo. A presto, Mastella, ciao. Ok, a voi, buona serata, grazie. La zanza. Antonio da Pescara, buonasera Antonio. Buonasera. Senta, io volevo preliminarmente dirvi, a lei e al signor David, veramente, sì. Voi sareste degli ottimi attori, tipo De Sica, eccetera, dei film natalizi, ve lo dico veramente, senza scherzi. Sì. Detto questo, sì, avreste molto successo. Vabbè, detto questo, volevo dire, per quanto riguarda i forconi, sì, eccetera, a prescindere dal fatto che io a questi forconi li ficcherei in un buco che, insomma, puntini, a chi protest, sono nati all'improvviso. Come mai così questa cosa repentina, questi movimenti repentini così? Per caso c'è pericolo, hanno paura di un cambiamento in Italia? Ma chi? Per cui hanno messo fuori questa gente così? Ma chi? Questo. Ma chi hanno messo fuori? Non lo so, questi qua che sono di fuori, i forconi, i forconisti, eccetera, ripeto, sempre il forcone se lo dovrebbero mettere dietro tutti quanti. Sì. Volevo dire, come mai così all'improvviso queste persone sono venute in piazza? Così improvvisamente. Nel giro di un giorno tutti questi movimenti a chi giova? E che ne so, ci dica qualcosa lei. A chi giova? Si potrebbe anche sapere, ma non lo dico io ovviamente, me lo tengo nel cuore. Comunque fate gli attori che sareste molto bravi, veramente, complimenti. Bah. Giuseppe da Genova, buonasera. Buonasera. buonasera. Dica. Sono indignato dalla sua, dal suo cinismo. Sì. Dal suo modo di prendere tutti i delinquenti, la Marchi, e poi Scilipoti, e poi questi qui. Ma Scilipoti veramente è un anno e mezzo che non viene qua Scilipoti, È diventato moderato ormai. Quanti appartamenti sono intestati, i figli, sì, ma non nuove, è che ogni volta la che moglie, se non dà conto del patrimonio che ha messo in piedi da quando è in politica. Allora? Non ho capito. Niente, che lei è un cinico. Io sono un cinico. Non è che ogni volta che viene qui un ospite dobbiamo per forza cose, dobbiamo altro. Tornare a parlare dei soldi, del figlio, dei figli, no, come, no, ha, no, no, come ha gestito i fondi pubblici, come ha gestito i fondi. Fra le domande normali e le domande che aiutino guardi, la gente a capire quanto, caro, questo, caro, quanto questo è un malfattore. Un malfattore. Dunque, secondo lei Mastella è un malfattore, giusto? Un bandito. Dico che i giornali riportano che lui è un malfattore. È un malfattore. I giornali riportano che lui è un malfattore. Ma neanche il coraggio di dirlo direttamente. I giornali riportano che. Insomma, io normalmente non lo sono, ma mi trovo del tutto d'accordo con gli atteggiamenti di Parenzo quando parlate con queste persone. Va bene, va bene. Grazie, grazie. Giuseppe da Genova, buonasera, era lui, Mauro da Mantova. Ciao Cruciale. Ma l'esercito di Mauro l'hai fatto tu? Dio. L'esercito di Mauro su Twitter l'hai fatto tu? Eccolo. Scusa, ma ancora lì c'è il testicolo uscito dallo scroto? No, chi sarebbe questo? Mauro da Secondo te ce n'hai uno solo? Grazie di testicoli che fa da zerbino o da ciucciaculi? Quindi l'idiota di Parenzo, chiunque che sia, quel ciucciaculi lì. È un ricottaro ruffiano paraculo che ha sputato in faccia. Quando gli hai sputato in faccia, lui dovrebbe dirti. Grazie, molto se ne vanno sempre i migliori, cazzo. Quelli invece ma vanno rimazzato. Niente. Parlo dentro di me, dico che purtroppo ogni giorno muore tanto di quella brava gente. Aspetta, che è stato in Germania la settimana scorsa, dimmi. Sono stato vicino a Stoccada, Kirchentech. Che sei andato a fare lì? Scusa, Mauro, che sei andato a fare? Secondo te? Che ne so, a lavorare? Sei andato a ciucciare culi come quelle tre coglione che hai lì a fianco. Calmo. Io sono andato a sgobbare in Germania. Secondo te è vero, Parenzo? Ma non me ne frega niente quello che fa questo qui. Ma no, mi dispiace perché non è rimasto là. Ma perché non è rimasto lì? Non dovresti nemmeno essere nato. Con tutta la gente che ogni volta se ne muore, talmente tanta gente, brave persone, tante brave persone ogni volta spariscono. Non sono niente. Ancora come spermato. Tempo che e vive gente che respira inutilmente. Allora, sei stato in Germania, dimmi Mauro. Allora? E sono andato a sgobbare in Germania. Beh, abbiamo capito. Poi? Ma tu sai come ci giudicano, come considerano, come non considerano i politici italiani? Come, dimmi? Allora, pensavo che fossi la politica, in questo governo per i tedeschi è un governo di ricottari. Sì, perché? Scusa, caro politologo. Gli cani, sì? Che si sono attaccati alla poltrona. Ah, c'è da ciucciare, l'embaggio. Ma ascolta, ma ti rendi conto che in tutto il mondo, in tutta la galassia, non c'è un presidente di Repubblica che debba andare a un processo di mafia. Noi ce l'abbiamo. Ma che c'entra questo? Sono i magistrati che l'hanno chiamato a testimoniare. Tu capisci che se ti metti a discutere, perché argomenta? Perché l'hanno chiamato a testimoniare? Perché l'intercettazione l'ha fatta fare l'informatore di Napoletano. No, quello è il direttore del Sole 24 Ore, Napolitano. Poi c'è una confusione in testa. No, Napoletano è il direttore del Sole 24 Ore. A me dispiace tanta gente che ogni giorno muore. Un attimo, Mauro, un attimo. La zanzara è quell'odioso insetto. Ascolta, ma dà fastidio una cosa. Quando una persona dice una cosa, tu e quell'altro la cicoria che c'è spesso, subito a caricatura. Cicoria. Ma è con noi, caro Parenzo, questa sera ti ho fatto un grande regalo, tu chiami molto, no? Non ami molto gli ascoltatori che ci chiamano. Alcuni no, alcuni faccio molta fatica. Mauro, resta lì tu, Mauro resta lì. È sì, con Mauro. Noi Giovanni Sartori, buonasera. Bello. Buonasera, buonasera. Professore, spero stia bene di salute innanzitutto, eh? Insomma. Beh, come? Si va avanti. Vivacchio, vivacchio. E la sua giovane e bellissima moglie come sta? Lei sta benissimo. Meno male, almeno quello la sorregge, la aiuta, sì, mi raccomando. Sì, certo. Sai che in questo hanno una cosa, il grande professor Sartori, che abbraccio fortissimo, e il presidente Berlusconi hanno l'unica roba in comune, che hanno due donne, due compagne giovani molto molto belle. Ma non credo che la differenza di età sia la stessa, o sì, no, professor Sartori? Com'è la differenza di età? Quello è 50 anni tra Berlusconi e la sua signora, si chiama Pascale. La vostra che differenza è? Ma senza, io non ne ho mai contati, ma mi sembra parecchi, ma insomma anche Berlusconi non si può vantare di fare diversamente, quindi. No, Berlusconi. Se lui assolve se stesso, almeno i berlusconiani dovrebbero assolvere me. No, ma su questo non c'è dubbio. Su questo nessuno sicuro. ha mai detto nulla da questo punto di vista, anzi. Assolutamente. Senta, professore, che idea ha del suo concittadino, il signor Renzi? Ah, ecco, sì. Cioè, che idea si è fatto? Soprattutto da quando ieri a un certo punto ha detto di essere favorevole allo ius soli, cioè a chi nasce qua diventa cittadino italiano. Che idea si è fatto di Renzi? Ma senta, Renzi indubbiamente è abile, furbo, agile. Sì, agile. Però è disposto a barattare tutto, insomma, appunto a barattare lo ius soli, che sarebbe un errore gravissimo per una contropartita di altro genere, insomma, non tutto è barattabile, mentre per Renzi sì. Ora questo mi spaventa molto, perché lo ius soli sarebbe un disastro in un paese che ha già altissima disoccupazione, sì, una delle più alte, e che naturalmente con gli ius soli indosserebbe le file o dei lavoratori sottopagati, sì, o della diciamo delinquenza, della malavita sulle strade, eccetera. Ma perché l'ha fatto? Però lei non è piccolo, insomma, perché insomma la gente ormai ha paura a uscire la sera, insomma. Scusi un attimo, professor Sartori, ma secondo lei ci crede davvero Renzi a questa cosa dello ius soli, oppure è una cosa, come lei dice, è cinico ed è disposto a barattare magari in cambio dell'appoggio di una certa sinistra, eccetera? Ma senta, io Renzi, ho visto una volta sole, non lo conosco, ovviamente appartiene a un'altra generazione. Ah, non c'è dubbio. Però barattare lo ius soli con lo ius sanguinis è una cosa gravissima, perché appunto l'Italia ha un'altissima disoccupazione giovanile, e queste persone che entrano in Italia più o meno legalmente, sì, se anche giustificate da un diverso titolo di nazionalità, aggravano ancora tutti i problemi che abbiamo. Quindi a prescindere da altre considerazioni. Ma lei lo voterebbe mai uno come Renzi, professore? Cosa? Lo voterebbe mai uno come Renzi? Se, no, perché è disposto a barattare tutto. Lui punta a vincere così e basta. A me questo non dà nessuna soddisfazione. Ma non è di sinistra, secondo lei, no? Non è uno di sinistra. Ma né di sinistra né di destra, lui parla con tutti, baratta su tutto, e ha ansia di arrivare al potere, cosa che probabilmente farà. Ansia di arrivare al potere. Senta, ma anche la Chienghe lo appoggia. Ho letto da qualche parte che la Chienghe vorrebbe addirittura, in realtà la proposta è della Turco, ma la Chienghe la appoggia questa proposta, istituire quelle che sono state ribattezzate le quote nere, cioè dire dei posti riservati nei partiti, nelle associazioni e nelle imprese agli immigrati, il 10%. Come le sembra come idea? Ma demente, perché tradizionalmente lo ius soli è dei paesi sottopopolati che vogliono nuova popolazione, sì, e gli ius sanguinis è dei paesi già sovrappopolati, sì, che non se lo possono permettere. Voglio dire, non voglio fare la storia lunga, ma sarebbe l'ultimo colpo consentire lo Ius Soli, cioè l'accesso a tutti, migranti, clandestini, eccetera, che aumenta sia il lavoro sotto costo, sia la criminalità, che non è piccola, e le quote, sia la disoccupazione. E questa storia delle quote nere, cosiddette quote nere, le quote per gli migranti? Siamo nell'antica demenza. Io con la sua consigliera a suo tempo molte volte polemizzato. Sì. Il dramma, lei è una fanatica, lei è la consigliera della povera Chienge che non sa nulla di niente, insomma. Con chi ha polemizzato lei? Con la consigliera di chi? Scusi, non ho capito. Lì è la del Turco. Ah, la Turco, e sì. È la consigliera della ministra. Ah, la consigliera, non so se è ancora la consigliera della... Sì, penso sì, sì, mi risulta. Sì, la consigliera, cioè lei, secondo lei, dietro la Chienge c'è la Turco? Sì, questa. Sì, perché da sé la poveretta così non è in grado, non di... è qualificata per un incarico di questa delicatezza. Non è in grado, dice di suo. E poi chiamarla ministro dell'integrazione, non sa cosa sia l'integrazione, non sa niente di niente, ma naturalmente vuole favorire quella che i francesi chiamano la negritude, cioè il colore nero. Sì. Ora, di questo non abbiamo bisogno noi in Italia. Senta professore, lo sa che dopo questi suoi attacchi alla Chienge lei si è sentito un po' isolato dai suoi vecchi amici della sinistra? Secondo me sì, cioè molti non le parlano più. Come funziona la storia? Ma la funziona che la sinistra italiana ha perso la sua ideologia, che era l'ideologia del marxismo-leninismo, e ha trovato come alternativa una specie di un'ideologia terzomondista che non ha nulla di in comune con il vecchio credo comunista e che per di più è dannosissima al paese. Quindi io se non sono mai stato di destra, certo a una sinistra che porta avanti la Chienge, sì. E non... Oggi chi voterebbe lei? Ma a questo punto nello sfascio generale non lo so. Ma non lo so. Non ho voglia di votare per nessuno, ma insomma vediamo al momento del voto. Vabbè, Grillo lo considera, penso, una sorta di pazzoide, se non sbaglio, no? Beh, Grillo è un agitatore di piazza, sì. Per sfortuna aiutato dalla tecnologia elettrica, perché se no era un masanello qualsiasi. Ma senta, insomma il successo di Grillo è preoccupante, perché sì, insomma Grillo da un punto di vista le critiche sono giuste e facili, le facciamo tutte, ma le soluzioni non le ha, e anche lui non ha la minima idea di niente, insomma è un bravo tribuno della plebe. Parenzo, stai ascoltando? Come no, ma infatti io voglio dire, professore, però scusi, per non tornare, io sono in radicale disaccordo con lei, ma lei se ne fotterà giustamente. Però dico, ma in quei paesi dove c'è lo Ius Soli, mica stiamo assistendo a un'invasione, alla perdita di lavoro? Cioè, se la sinistra non fa questo, che fa sui temi dell'immigrazione la sinistra? Beh, scusi, come che fa? È una storica battaglia di sinistra quella invece dello Ius Soli. Sono così la sinistra ha sbagliato tutto, dico, se l'unica battaglia che ha, poveri noi, è povera la sinistra. Speriamo che si ravveda. Guardi che non è così. Ripeto, gli Ius Soli è giustificato dai paesi sottopopolati che vogliono nuova popolazione. Gli Ius Sanguinis in questo caso difende gli italiani che sono già troppi, vista la disoccupazione che abbiamo, che è altissima. Ma non lo scrive più sul Corriere questo adesso? Sì, come no. Che cosa? Sì, lo riscriverà ancora? Adesso glielo fanno scrivere tranquillamente. Ha fatto ancora pace con De Bortoli, col direttore del Corriere, sì. A fare che cosa? Ha fatto pace con De Bortoli, il direttore del Corriere? Sì. Io non ho mai fatto guerra con De Bortoli. Beh, però le avevano messo un articolo in una posizione un po' strana, adesso invece no. Sì, ma insomma i rapporti che sono lontani, perché è la seconda volta che è direttore del Corriere, quindi l'uomo con me è stato correttissimo. Poi c'è qualche cosa anche in quella macchina che non funziona bene, ma insomma No, io con De Borse, De Borse sì. Senta, che ne pensa lei di questa storia della Boldrini, dei voli di Stato, del volo di Stato in Sudafrica? Ma se dice che non è costato niente, poco vale. Ma non è una cosa grave, insomma, queste sono spesucce rispetto al fatto che abbiamo uno Stato che non ha un centesimo neanche per pagare i propri fornitori. Sì. Uno Stato che non paga quello che compra o che lo paga con un anno di ritardo dice veramente uno Stato. Assolutamente. Grazie professore, arrivederci, buona serata, grazie. Grazie. Grazie a lei, buona serata. È la zanzara capricciosa, la zanzara velenosa. Ormai è tutto degradato. Beh, sarà anche degradato non quanto l'intervento di Mario la settimana scorsa qui alla Zanzara. Mario, senti cosa propone Mario. È la zanzara capricciosa, la zanzara. Mario, provincia di Massa. Guardi. Che è successo? Sono disperato, sono. Io sono un insegnante. Sono uno di quelli che è rimasto fregato dalla Fornero. Ci stanno distruggendo. E lei cosa vuole fare? Distruggendo il nostro lavoro. Ma guarda, l'unica cosa sarebbe circondare il Parlamento, prenderli tutti, farli fuori tutti e liberarci di quelli. Cioè farli fuori come, scusi? Proprio fisicamente, questa gente qua ormai non ho ancora capito che la gente è all'estremo. Ma come farli fuori? Ma guardi, se si può politicamente, se no? Ma siccome non si può, perché sì, loro non faranno mai una legge elettorale che dia sì, peso al popolo, sì, quindi bisogna pensare alla violenza, e però come? Non va bene la violenza sulle strade, perché così si colpiscono solo chi deve andare a lavorare. E invece la violenza come? Ma sparare non lo so se bisogna sparare. E che ne so, lei dice farli fuori, lei l'ha detto farli fuori. Magari anche quello. Basterebbe proprio anche quei fucili, perché quei fucili gente qua non è degna sì, di stare in Parlamento. È gente mafiosa, ci sono dei mafiosi. Ma lei si sta attrezzando o no? Da questo punto? Io mi sto attrezzando, sto cercando di attrezzarmi. Cioè in che modo, scusi? Io penso che tanto arriveremo a... Ma in che modo si sta preparando, scusi, mi spieghi? Ma io cerco di organizzare di svegliare anche i ragazzi a scuola. È la zanzara capricciosa, la zanzara. Scusi un attimo, ma lei ha un fucile a casa? No, non ho un fucile perché me li hanno fatti vendere perché sono troppo focoso. Me li hanno fatti vendere quelli che ho ereditato da mio padre. Ma allora come sta preparando i giovani? Cioè li sta insegnando a sparare? No, sparare ai giovani no, però ai giovani gli dico di svegliarsi. Cioè di cercare di fare l'assemblea, di discutere. E di circondare Roma. I giovani ormai li hanno ridotti sì, ad avere telefonino con due giochini e la Gazzetta dello Sport e con quello siamo. Scusi, ma questo laboratorio di chimica è una struttura dello Stato o privata? Dove lei va a insegnare? Dello Stato. Sul mio ginocchio e tre persino sopra il mio braccio. C'è ancora Mauro da Mantova? Sì, perché mi hai scalzalettato i parenti, a star qui con il telefono in mano. Io non sono uno che sta lì a dormire, io sono un dinamico, Sei un dinamico, dinamico. Non sono mica un ciucciacone come quello che hai in fianco mia. Allora, che sei andato a fare in Germania? Spiegami, Mauro. A lavorare, ma che fai di mestiere? Ma niente. Ascolta, te l'ho già detto, io riparo le macchine, cioè la gente non sa nemmeno che esistono. Tu ripari le macchine? E il carrozziere, che fai? Io sono un preparatore verniciatore professionista, sì, che ha messo le mani su macchine che costano milioni di euro. Mm. Allora, nel 2009. Vabbè, è caduta il telefono, Mauro. Luca d'Aosta. Aria fresca. Luca, richiamatemi il pazzo, va. Luca? Pronto? Dimmi. Sì, abbassa la radio, dai. La spengo. Sì, io volevo fare un intervento relativo a quello di Mastella, che è stato fantastico, perché abbiamo un Mastella che si prepara di nuovo a essere candidato alle europee. Sì, e anche alle nazionali, se ci fossero. Sì, ma dico, ma non gli avete chiesto se sa parlare l'inglese, il francese, il tedesco? Che cosa ha fatto a Bruxelles? Quello vedremo. Però. Ma chi lo vota mica interessa quello, Chi ha messo la preferenza Mastella alle europee? Sapeva perfettamente. Non frega un cazzo di Mastella. È Mastella? Voi avete fatto una domanda bellissima. Ha detto, ma se lei Mastella va a bussare alle porte a chiedere un finanziamento, che cosa riceve? Io immagino degli sputi. Cioè, lui non ha avuto il coraggio di dirlo, ha detto qualche centesimo dai poveracci, i ricchi non gli danno niente. Cioè, basta, dai, per favore, quanto tempo è che in politica, e lui pensa di poterci ancora stare, candidare alle europee e anche al Parlamento nazionale, signor Clemente, esatto. Mastella, oh, ma se prende i voti, prende i voti, Luca, io non c'è, no, ma quelli, no, che prendo, dicono, quelli che dicono come li prende, no, li ma sappiamo tutti, Luca, però bisogna, una volta ho sentito dire una cosa bellissima da Mastella. Cosa? Che ha detto, perché purtroppo l'ho conosciuto, ha detto, cioè, come l'ha conosciuto, io in che ho senso? Raccomandato di tutto, ha detto, ho raccomandato di tutto, sì, però, tranne, sì, tranne i medici, fa, perché se mai un giorno avessi un infarto per strada e mi portano da uno di quei medici che ho raccomandato e muoio perché è un incapace, dovrei pentirmi di quello che ho fatto. Allora, un personaggio così, ragazzi miei, abbiate pazienza. Beh, un cabaret, uno spettacolo assoluto ogni giorno. Però scusi, Luca, io le voglio far notare che quelli che oggi dicono, beh, no, ci vogliono le liste, no, non ci vogliono più le liste bloccate, ci vogliono le preferenze, bisogna tornare a quando veramente la gente sceglieva i propri candidati sul territorio. Beh, insomma, Mastella era, forse è ancora, l'emblema di quel tipo di candidati. Cioè, se tu candidi in un collegio uninominale a Benevento, Mastella contro qualcun altro, vince Mastella. Dunque, sì, ma volete le preferenze? Beccatevi, no, Mastella, Gasparri, eccetera. Privilegi a pioggia che ha potuto fare grazie al denaro della politica, non coi suoi soldi. Con i soldi, ma non è solo quello, ma non Ludeur, è solo quello. Ludeur prende i soldi ancora adesso dei rimborsi, lo sapete, no? Lo sapete che Ludeur, che non esiste più, non so se prende ancora rimborsi, ha preso rimborsi, non credo che li prenda ancora. No, no, li prende ancora. Ma no, sulla base di che? Non è che si è presentata, non si è presentato alle elezioni, non credo che prenda ancora, ci sarà qualche rimasuglio di non so quando. Guardi, dice su internet e va a vedere che loro prendono ancora i soldi delle ultime elezioni. Quali elezioni? Quali elezioni? Quando c'era il simbolo presentato. Ma il simbolo forse, nel 2006 l'hanno 2007, preso. Nel 2006. No, ma no, nel 2006 i soldi sono finiti, caro mio. Allora, Cruciani, mi faccia solo un piacere. Lei cosa? Adesso passa le telefonate. Vada a vedere su internet. Sì, ma vado, ma l'avranno la presi. Ragione, ma li hanno presi per 5 anni. Li hanno presi per 5 anni dal 2006 al 2011, cioè dal 2006 al 2008 in quella legislatura. Anzi, poi all'epoca li prendevano anche oltre. Poi basta, non hanno più presi. No, vada a verificare. Vabbè, dopo verifico, non si preoccupi, dopo verifico. Mauro da Mantova. Ascolta, ancora. Allora, Mauro, dai, dimmi. Dicevo, io ho riparato quella macchina lì, la Ferrari Europa, che ha vinto nel 2009 il primo premio. Vabbè, ma che ci frega noi adesso di quello che hai riparato? Ma mi devi far finire il discorso. Allora? Allora, quando dopo l'anno dopo sono andato a lavorare per la Maserati di Modena, per tirare la fattura di quel cornuto di Montezemolo, ho dovuto chiamare il 113 dopo un mese e tre settimane. Con i miliardi che hai in Svizzera non mi paghi la fattura. Vabbè, ma noi adesso che ci frega della fattura con Montezemolo, scusa. No, Mauro, ma sono mangiato soldi per 90 anni, suo padre, il suo vero padre. No, ma stai tranquillo, belli. Stai tranquillo, lasciamo perdere Montezemolo. Noi, per carità, puoi dire e tutto. Poi? Puoi dire tutto quello che vuoi su Montezemolo, però adesso che ci frega a noi della fattura che non t'ha pagato? Se non no, me l'ha pagata, a me me l'ha pagata. No, se non perché se no ci andavo dentro con la macchina in ufficio, se non me la pagava, contavo che non me la pagava, se andavo in ufficio con la macchina. E io sono uno che sono capace di farlo. Mauro da Mantova, io non scherzo mica, io quello che dico te lo traduco in fatti. Infatti, allora quando vuoi andare a picchiare Parenzo dici sul serio? Allora, ascolta. Dimmi. La mia ex moglie se la faceva con un suo collega. Se la faceva con un suo? Mamma con un suo collega. Infatti, pare che te, allora, infatti sono anche separato da due anni. Vabbè. Allora. Ma ha fatto bene. Ha fatto bene. Quando io ho scoperto la Tresca, io gli ho telefonato, gli ho detto. Io, prima o poi, ti pesto. E che hai fatto? Lui pensava che avessi fatto come tutti gli altri, perché lui se ne è fatte parecchie di donne lì. Perché siccome che era un capetto, no? Ma ti credo. Beato lui. Un capetto ne ha buttate giù a cane parecchie. Non lo sopporta più. I mariti, quando hanno scoperto le Tresche, gliele hanno sempre promesse, ma non gliele avevamo mai date. E invece tu che hai fatto? Io gliele ho promesse, io gliele ho date. E che hai fatto? Con sua moglie alla finestra che guardava. Tant'è vero che il giorno dopo, quando mi ha chiamato sua moglie, è riuscito non so come a trovare il mio telefono. Mi fa, ma scusi, lei è quello che ha picchiato mio marito ieri sera davanti a casa mia? E allora? Sì, perché qual è il problema? E fa, ma perché ha picchiato mio marito? Vede signore, suo marito ha il vizietto di andare con le colleghe di lavoro quando gliela danno. però i mariti non sono molto d'accordo, io sono uno di quei mariti lì, però gli altri le danno sempre promesse, io le ho promesse e gliele ho date. Ma che le ha fatto? L'ha picchiato sul serio, forte? Ma stai scherzando? E che ne so, Mauro, ma non ti ha denunciato? Te lo giuro, ma te lo giuro, sono la vita di mia figlia. Aspetta. Se non chiamano le vecchie che hanno visto, che colui che chiamava aiuto, se non chiamavano la polizia, io non pestavo ancora lì, non ancora lì a pestarlo, eh. Ma scusa, Mauro, ma tua moglie... Ma stai scherzando? Che ha detto Parenzo? A me devi fare un torto, io te la faccio pagare. Ma che hai detto? Ma chi non ti è malato di mente è pure un cornuto, figurati. Che hai detto? No, diglielo, diglielo in faccia. Ho detto che oltre ad essere un malato di mente è un cornuto, ma dai, ma per forza la moglie se n'è andata, ma su, ma chiunque, poveretto, dai. Tu non sei cornuto, sai perché? Ma è evidente, poveretto, si capisce tutto. Ma l'hai raccontato tu che sei pure cornuto, su, ti sei umiliato così, sei pure un cornuto, sei, attaccati la dentiera col Bostic lì, che sarebbe, no? Stai tranquillo. Neanche a parlare riesce più, dai, poveretto, è un caso clinico. Clinico, cornuto e pure decorticato. Ma che male c'è adesso? La moglie è andata con un altro, dice, gli andava, scusi, sua moglie andava, le piaceva andare con un altro, qual è il problema, Mauro? Qual è il problema? Qual è il problema? A sua moglie piaceva... Io non ho nessun problema, io sono da sola, sto benissimo. Io ho i miei gattini che mi amano alla follia, ho la gattina che mi lecca come una caramella. Ma il gattone fa le fusa 24 ore al giorno. Ah, e donne niente? Oh, bello. Quando prima mi hai chiamato, l'ultimo messaggio mi ha chiamato, non vedo il suo lavoro. No, no, te calmo che io mi vado a fare, pari, a padre mi vado da fare anche quando ero ancora con mia moglie. Vabbè, questo... Solo che lei non ha mai saputo niente, perché io vedi, le cose le faccio da furbi. Lei invece, la furbizia non ha una sua qualità. Non mi molesti moschito. Beh, te lo ricordi, caro Parenzo, forse sarà la manifestazione... Bassi fondi salta fuori sta gente qui. Alle manifestazioni di mercoledì ci sarà forse il mitologico generale Pappalardo, buonasera! Aia. Buonasera a lei, mi dica! Come andiamo? Ci sarà anche o no generale. Mercoledì? No, veramente le dico che io però sono al pianoforte che sto facendo una composizione musicale. Ah, mi faccia sentire questa... Dice, mi faccia sentire... Come? Mi faccia sentire questa composizione musicale, generale. No, io non faccio qualcosa di questo genere, la mia musica è abbastanza seria, non mi esibisco in questa maniera. Io dico che sto facendo una composizione musicale, mercoledì andrò perché siccome sono un uomo che dialoga con tutti... Sì, scusi, aspetti che forse è col via voce, Pappalardo, non si capisce a cazzo, Pappalardo? Purtroppo sì, perché... ho capito, però non si capisce qua. Siamo ai servizi segreti. Adesso sento bene, adesso sì. Scusa, allora, generale Pappalardo, sono un uomo che dialoga con tutto, mi hanno invitato e il 18 vado lì, ma non perché sono parte di qualche cosa, vado lì solamente ad osservare e a dare anche il mio contributo di pensiero laddove lo vogliono e allo stesso tempo dove lo vogliono. Scusi, ma è vero che lei ha fatto un movimento che si chiama Pace in Terra? Sì, mi dispiace, vede, io le faccio una domanda, gliela posso fare una domanda? Come no? Lei sa che nel 2006 è stata eseguita all'interno della Basilica di San Pietro la mia opera Petro Seni, e che dentro la Basilica di San Pietro sono entrate solamente due opere, la messa da Requiem di Mozart e la messa solenne di Beethoven, e poi la mia opera Petro Seni, e poi non è entrato nient'altro dentro la Basilica, lei lo sa questo? No, ma che c'è? Io le sto chiedendo se ha fatto il movimento Pace in Terra. Le faccio una domanda, lei lo sa questo? No, non lo so, l'informazione è cattiva in Italia, ma non esiste informazione. Ma io mica le sto dicendo che lei è un bandito, sto dicendo ha fatto il movimento Pace in Terra, sì o no? No, per dire che il movimento Pace in Terra esiste da diversi mesi. Oh, non lo sapevo, ma io non posso farci nulla. Mi scusi, ma non posso farci di nulla. Che si voi occupa? Non lo sapete perché non c'è informazione in Italia, capito? Beh, adesso, non è perché. Che generale, voglio adesso. Rimproverare lei, per carità. No, generale, non voglio abbia rimproverare pazienza, lei, per dire mio. Che c'è una cattiva informazione in Italia. Sì, però non è che se uno non sa che cos'è il movimento Pace in Terra significa che non sa niente. Esatto. No, assolutamente. Pace in Terra è un movimento che è nato 4-5 mesi fa, quando ci siamo accorti da noi in Sicilia, ragionando fra di noi, perché non, in Sicilia non ci sono solamente mafiosi, ci sono anche persone che pensano e ragionano. Ecco, ma perché uno chiama un movimento in generale? Perché uno, appunto, come lei, ex generale, eccetera, fonda uomo il movimento Pace in Terra? Lei ha mai fatto il carabiniere? No, per fortuna, dico, no, ecco, nel senso... lei non ha mai fatto il carabiniere. No. I carabinieri sono uomini di pace. Sì, ma questo... Le dico che negli ultimi anni sì? i nostri soldati vanno all'estero come soldati di pace. Sì. Non fanno più la guerra. C'è stata una notevole metamorfosi nel nostro esercito. Sì. Esiste nel nostro esercito ormai un esercito di pace. E quindi... Scusi, però, generale... Il generale dei carabinieri faccia un movimento pace in terra, o no? Assolutamente. Scusi un attimo, ma lei fa parte anche solo idealmente dei Forconi, sì o no? No, io non faccio parte idealmente di niente. Io sono il presidente di questo movimento pace in terra. Sì. Che però vuole dare il suo contributo per la rinascita dell'Italia, quello sì. Anche lei vuole mandare tutti a casa? Anche lei vuole mandare tutti a casa come slogan? No, io voglio solamente fare in modo che sia applicata la sentenza della Corte Costituzionale. Ma quella su che cosa? Io sono un carabiniere, sì. uomo sì. di pace. Se la Corte Costituzionale emette una sentenza, sì. bisogna rispettarla quella sentenza. La Corte Costituzionale Nazionale ha detto quella legge. Che dal 2005 vabbè, 2006, è incostituzionale. Parlamento, eccetera. È incostituzionale, per cui addirittura è intervenuto un presidente emerito della Corte Costituzionale che ha detto: signori, il Parlamento è esautorato. E non lo dico io. Per cui che devono fare? Si devono, si devono dimettere tutti, secondo lei, subito? Ma questo lo dice, lo dicono i ma alcuni sì, i altri no. Lo dicono loro e noi che vabbè. Ovviamente siamo attenti a quello che dicono questi esperti sì. del diritto, siamo turbati, noi si mettono nei nostri panni. Siamo turbati, io non sono turbato. Per 40 anni al carabinieri ho fatto rispettare le leggi ovunque mi trovassi. Sì, però generale, io cosa vedo? Che io sono... mettono una sentenza e che non sappiamo se sarà. Ma se io non sono turbato, non è che sono meno, io non sono turbato, così osservo, dice vabbè c'è un Parlamento in carica, vabbè comunque. Generale, io l'abbraccio fortissimo, grazie. Però, grazie. Generale, saluto. L'abbraccio. Diego da Agrigento, buonasera Diego. Buonasera signor Cristiani, buonasera. Allora guardi, io mi riferivo a quel signore che parlava dei forconi eccetera eccetera, diciamo. Allora io ho manifestato qui sotto la rotonda di Giunone, praticamente sotto il tempio di Giunone, e ci avevano vietato giustamente perché si erano creati l'anno scorso con i forconi dei disagi enormi, no? Allora, però questa cosa, cioè, praticamente... Diego, cosa vuole dire lei? Che non ho capito nulla. Cosa vuole dire? Allora, voglio dire che la politica è troppo distante dalla realtà. Vabbè, le solite cose. La politica è distante dalla realtà e dunque? E dunque io le manderei a... Cioè, se ne devono andare a casa... Tutti a casa, come al solito, si devono vergognare tutti a casa, non si capisce niente. Questa è l'unica proposta che viene dai forconi, almeno da alcuni di essi. Tutti a casa si devono vergognare. Marco da Roma. Ah, roba pazzesca, dai. Marco! Allora? Vabbè, Alessandra, provincia di Treviso. Buonasera Cruciani, grazie. Dimmi. Compagnia. Veloce, vai. Allora, sì, velocissimamente. Volevo solo dire che, visto che viaggiavo da Padova a Treviso, sono stata fermata dai forconi. E sono assolutamente pacifici, ecco. Ma infatti nessuno dice che sono violenti, ecco, per fortuna, ma diciamolo, allora? Perché no, semplicemente questo, chi vuole farli passare, mi pare di capire che ci sia qualcuno che li vuole far passare per ma nessuno li vuole far passare, ma nessuno ma invece no, mi pare proprio che sia diverso, perché... Va bene Alessandra, ciao, a domani 18:30. Ci dipingono anche oggi il titolo della stampa, quelli che sono contro l'Europa. Sto cazzo, noi siamo quelli dell'Europa dei popoli. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.